C'è qualcuno in linea? Lo sentiamo, pronto? Michele Caruso, troglodita muori. Grazie Michele Caruso, che è riuscito a imbrogliare, come ha fatto con Portobello, anche il nostro regista. Michele Caruso, troglodita muori. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Tira un po' di ventaccio, però bisogna sopportare per andare avanti. Grazie ragazzi, andiamo avanti. Mi chiedo scusa, perché vinceremo la nostra battaglia. Un po' di pazienza, ma stando in mezzo a un freddo, qui siamo a meno 3 gradi, succede anche questo. Ma noi abbiamo la tempra forte e andiamo avanti. Viva l'Italia! Viva l'Italia! Viva l'Italia! Viva l'Italia! Quest'influenza del diavolo fa proprio spavento. La mia temperatura è di 38,3. Più alta di quanto non sia mai stata. Mi fa male la testa e mi sento la gola chiusa. Gola chiusa. Gola chiusa. Il governatore sta richiamando la Guardia Nazionale. Mettono dei blocchi stradali, fermano la Camera di Commercio, i trasporti pubblici, tolgono i camionisti dalle strade. La gente riuscirà a passare lo stesso, lo sai? Sì, è vero. I servizi segreti porteranno il presidente in un luogo sicuro. Il congresso si sta organizzando per lavorare online. Quando sarà divulgata la notizia, ci sarà la corsa alle banche, alle pompe di benzina, ai supermercati e a tutto il resto. Sarà il panico. Il virus sarà il minore dei problemi. La situazione sta precipitando. Dobbiamo solo fare in modo che nessuno lo sappia, finché non lo sapranno tutti. State calmi! State calmi! State calmi! Parliamo di cose sensate, per favore. Luciani, parliamo di cose sensate, per favore. Sono momenti importanti per il paese. Parliamo di cose importanti, per favore. Davide Parento. Direttamente dal lettuccio magico, buongiorno a tutti quanti. Per quanto riguarda il coronavirus, io vi dico di stare tutti tranquilli. Non vi fate impaurire, continuate a fare tutto quello che siete abituati: uscire con i vostri amici, frequentare palestre, frequentare posti affollati. Regà, quello che vogliono è metterci paura. Quindi mi raccomando, continuiamo a vivere la nostra vita. La nostra vita. Il coronavirus non è un virus che è nato dal pesce del cazzo. Non è vero nulla. Informati e vedrai che tutto nasce da esperimenti volutamente fatti nella Cina. Hai rotto il cazzo! No, lo stai dicendo a me! Sì, dico a te! Ma lo stai dicendo a me! Sto dicendo a te! Ma che sei il cazzo impazzito! È tuo. Tua nonna! Allora, sei impazzito tu! Ciao Vittorio, grazie! No, ciao un cazzo! No, vai ciao via tu. No! Vai ciao via tu. No, ciao, vai esci da qua! No! Io ne ve la faccio! No, io non vado via di qua! Vai a fare il ma tuo. Pensa un po' alla me. Vittorio, ti prego. Vittorio che? Vai per favore via. Vai via tu. No, io non vado via, la mia trasmissione. Io sono l'altro. Non puoi dire parolacce nella mia trasmissione. Non dirle tu. Io non le dico. Cafra, io ti so che no. Vai per favore via. Vai via tu. Vai via tu. Amico mio, che ecco paese qua. Ecco qua. Che paese, che ecco paese qua. Straordinario. Siamo il terzo, siamo sul podio, amico mio. Il terzo paese più contagiato. Essere contenti, il terzo, diciamo. Sì, il terzo. Non c'è da avere ma giubilo. Rendi, no, lo sto non giubilando assolutamente contenti. Voglio prenderla con grande anche filosofia. Anche perché lì a Milano dove stai tu. Ma sì, ma guarda, Milano a me non me ne frega un cazzo. Posso dirti, continua a non fregarmi un cazzo. Certo, io giro per strada, continua, c'è meno gente. Ottimo, c'è meno gente già per strada. Ottimo, poco traffico, va benissimo. Mi dicono di andare in quarantena, andrò tu in quarantena. Mi dicono di blindare una città. blinderemo le città, la pazienza, spesa non la fai, da qui continueremo a trasmettere, da qui continueremo a fare ricchezze. Questa emissione aperta al pubblico, continuate, microfono aperto sul coronavirus o come cazzo si chiama, siamo qui con le vostre paure, le vostre angosce, i vostri complottismi, le vostre idee, siamo qui a rassicurarvi, cioè... e cercavi di dare poche informazioni ma precise. Qui c'è qualcun altro. Iniziamo subito con una cosa. Io sono incazzato da due giorni con quello che è successo in realtà da un mese a questa parte. Avete voi, tu Gottardo, e altre persone, tu Gottardo e altre persone, sbeffeggiato, avete trattato come incompetenti, infami, razzisti, no, infami, fascisti, quelli che dicevano che bisognava bloccare tutto sin dall'inizio. Li avete trattati come dei fascioleghisti maledetti. Io ho detto un'altra cosa. Non fare. Ripesca la registrazione. Ma che ripesca? Lo sanno tutti. Io ho detto una cosa molto semplice. Lo sanno tutti quello che hai detto. Tutti lo sanno. Quello che dice il professor Ricciardi, peraltro. Ma non cominciare a fare citazione a cazzo di cane. No, ma la gente, perché sennò sembra che. Sentiamo, partiamo dalla maglia. Partiamo dalla maglia. Noi avessimo lasciato gli aeroporti e gli scali diretti dalla Cina e una volta qui li prendevamo e li mettiamo in quarantena senza che questo volesse dire né razzismo né discriminazione. Questo ci avrebbe consentito. Se noi ora non chiudiamo gli accessi da terra, questi per esempio arrivano a Vienna e da Vienna finché... Sapete come questo finirà? È stato... Sì, prego. Finirà che saranno la Francia o la Germania o che questo ne so io, l'Austria, perché a chiudere Schengen e noi cambiato. Ce la pigliamo in saccoccia questo ancora una volta. Vi rendete conto di quello che è successo? Quello che è successo è che voi avete fatto passare per razzisti quelli che volevano mettere in quarantena i cinesi o chiunque veniva dalla Cina. Era razzismo secondo voi, secondo altri. Avete trattato Meluzzi come un sovversivo, pericoloso, un pazzo, e invece aveva ragione lui. Meluzzi è un pope, faccia il pope. Ma non dire stronzate, aveva ragione lui. Adesso dire che Meluzzi aveva ragione. Aveva ragione. Ma io non mi fiderei di Meluzzi neanche per farmi, ma neanche per tirare giù le persiane a casa, nel salotto di casa mia, neanche per fare quello. Io mi fido degli esperti, non di Meluzzi. Mi fido di Ricciardi, che è il consulente nuovo del Ministero della Salute, che ha detto che l'Italia ha fatto una cazzata, essere il federalismo ma sanitario. Ma chi se ne frega di queste puttanate? Porro. E le Mauritius fanno agli italiani quello che gli italiani non hanno fatto ai cinesi. Anzi, peggio, perché i voli arrivano dall'Italia, ma una volta che sono arrivati i voli, cioè quello all'Italia, non fanno scendere gli italiani. Certo, questo è vero. Vero. Fanno scendere dall'aereo tutti tranne, sentite un po' questa, lombardi e veneti. Cioè, dal nostro aereo fanno rimanere sul volo solo veneti e lombardi, e noi siamo qua a pensare ai confini, siamo qua a pensare alla quarantena, non li hanno fatti salire. Ma perché l'Italia è il terzo paese con più contagi del mondo? Veramente credete quello che oggi Conte e Casalino scrivono sui giornali, e che noi siamo il terzo paese con più contagi nel mondo perché siamo più bravi a fare i controlli? Ma veramente credete a questa roba qua? No, perché se c'è qualcuno che crede a questa roba qua, io vi prego, me lo segnali, mi scriva. Veramente pensate che noi siamo più bravi di francesi, austriaci, tedeschi, belgi, olandesi, lussemburghesi, inglesi nel fare i tamponi? Veramente pensate questa cosa qua? Perché se veramente pensate questa cosa qua, vi dovete tenere Conte, va bene? Intanto in questo bordello inenarrabile, dove addirittura la Basilicata chiude l'arrivo ai lombardi e ai veneti. Questo è sbagliato. La Basilicata, vi rendete conto? La Basilicata dice che lombardi e veneti non possono arrivare in Basilicata. Roba da matti. Don Fanzaga da Radio Maria dice che la preghiera può fermare il coronavirus. Sì, probabilmente sì. Certo. Signor Fanzaga. Certo. Io dico i medici, ma insomma, per carità, pregate pure. Quello non c'è problema. La preghiera, le nostre preghiere, sì, anche, possono perché... fermare il coronavirus, sì, no, cioè, no, possono incidere su una calamità risposta, che ci sta affliggendo. Io mi fiderei più di virologi, dei medici, degli scienziati internazionali. Però ciò non toglie che se uno vuole pregare, devo dire, non sostituire. No, ecco, questo mi sento dire. Io non sono, non sono ovviamente un medico, come sapete, e neanche Cruciani lo è. Non mi, mi sento di dire semplicemente questo: non sostituirei le cure mediche con la preghiera. Ecco, io questo però posso dire anche una cosa: non i, lo farei. I virologi però litigano tra di loro in queste ore. Hanno uno, se la piglia, diverse, uno se la piglia con l'altro. Abbiamo fatto troppo poco, stiamo facendo troppo. Il panico, l'altro dice: ma ogni nessuno misura ancora è riuscito a spiegare. Questo è incontrovertibile. Che con la preghiera si guarisce. Questo non c'è dubbio. Ma perché l'Italia ha tutti questi casi? È il nessuno terzo paese spiegato al mondo. Nessuno l'ha spiegato. Aspetta. Quindi vuol dire che non è che c'è da frontiere aperte o fermo, frontiere chiuse. Fermo là. Vi dico quello che ha sempre insegnato la Chiesa, quello che si ripete la Madonna in ogni occasione, che però, di fronte alle grandi calamità naturali la preghiera è fondamentale. Sì, quello per carità, certamente. No, vabbè, no, è però fondamentale anche la scienza. Per anche ciascuno scienza. Di, cioè per chi crede è fondamentale. No, è fondamentale per l'animo per di chi crede, per l'anima di chi crede, per la tranquillità di chi crede. Uno va a pregare e dice va bene. Sì, ma quello è meraviglioso. Ma non risolve nulla. Io però continuerei a lavarmi le mani con il gel di cui non voglio dire nome per non fare pubblicità. Senti, lavarmi le mani, continuare. Ecco, quello lo farei. No, lo senti. Indipendentemente dalla preghiera. Aspetta. Allora, di fronte a questa prospettiva. Quale? Che è realismo questo. Questo è realismo. Allora? Non è catastrofismo, è lettura della storia. Per cui uno si chiede come ha fatto l'umanità a sopravvivere fino ad oggi. E qui che dobbiamo dire se l'umanità è sopravvissuta fino ad oggi perché? È perché la provvidenza ha provveduto. No, non è la provvidenza. Non è la provvidenza. Scientifico direi anche, però insomma per carità, evviva lo stesso. Che la tecnica o la medicina o quel che volete voi siano onnipotenti, è tutto da dimostrare. Beh, ho capito, onnipotenti però, in che cosa? Cosa sappiamo di questo virus? Di questo virus sappiamo niente. Beh, ho capito, in realtà, però noi sappiamo niente. Poi dice anche che la Madonna ha fermato la prima guerra mondiale. Ma questo va benissimo, questo non è un problema. Questo non si può dire che benissimo. La Madonna ha fermato la prima guerra mondiale. Per carità, ho capito. Ma tu diresti che la Madonna ha fermato la prima guerra mondiale? Come tu sai, io poi frequento un'altra azienda e quindi non so che cosa ha fatto il CEO di quell'altra, diciamo uno degli amministratori dell'altra azienda. Esatto. Però voglio dire, quanti miracoli ha compiuto la Madonna per fermare le guerre? Compreso nessuno. La prima guerra mondiale. Nessuno. Forse nessuno. Voi non sapete no. Che di fronte a una calamità come quella della Spagnola nel 1918 era una calamità che poteva sterminare l'umanità. Che è successo? Eppure, infatti, cari amici, danno l'ha fatto, la Madonna apparendo fatto, a Fatima chiedendo il rosario per la pace, due pastorelli chiedendo la preghiera per la pace perché cessasse la guerra. E che è successo un miracolo. Ma non è il miracolo! Si sono messi d'accordo perché ormai erano distrutti tutti. Cazzo! Sogno la marijuana come unica e sola cura del coronavirus. La zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Ecco, vedi il cartello verde? Vedi il cartello verde? Vuol dire che c'è il tutor? Ma non ce ne frega un cazzo! Perché tanto c'è il virus! Tanto c'è il virus! Siamo morti! Ora che me la notificano, sono morto! Ora che verbalizzate, sono nella cassa da morto! Quindi non me ne frega un cazzo! Polizia stradale! Guardia di finanza! Suga! Carabinieri! Viva il coronavirus! Viva il coronavirus! Fermi tutti. Forse il paziente zero viene da Albettone. Sì. Cioè, cazzo, Albettone ci ha portato il virus cinese. Albettone. Dai, cazzo, Gio Formaggio. Parlava tanto degli africani che portano malattie. Cazzo, le portano quelli del suo paese. Top del sogno, cazzo, top del sogno. c'è questa ipotesi sul tappeto. L'ho vista, ma non volevo infatti dire nulla fino a quando le autorità competenti non certificano che davvero il paziente è dal Bettone. A questo punto il paziente zero, il paziente. A questo punto la valutazione che si può però già fare senza paura di cadere in allora? Smentite o quant'altro è che al Bettone verrà ricordata nella storia per tre ragioni fondamentali. La prima, per il suo sindaco condannato per razzismo, ora consigliere regionale. La seconda, per una cazzo di pista da sci assolutamente inutile, perché la gente non va a sciare dal Bettone, ma se vai va a Cortino in Trentino Alto Adige, non vai in provincia di Vicenza per sciare. Terzo motivo per il quale forse potrebbe essere ricordata ad libitum è la presenza del paziente zero. E quindi ancora una volta bisogna dire grazie al sindaco condannato per razzismo. Quindi è diventata ancora una volta uno dei posti più famosi d'Italia per una tragedia. Perché è una tragedia avere un sindaco condannato per razzismo con sentenza definitiva. Non mi toccare, Joe. È una tragedia avere un sindaco. È una tragedia avere una pista da sci in pianura ad Albettone, dove la gente non va a sciare perché va in montagna. Terzo, è una tragedia. Facciamo i migliori auguri infatti a questo cittadino di Albettone che forse, e speriamo di no per lui ovviamente, è il paziente zero. Non è una bella pubblicità per questa città che da tanti anni è governata da un razzista conclamato. Allora, non mi toccate Gio Formaggio. In tutta questa querella, in tutta questa diatriba, in questa situazione in cui la gente va nei supermercati e porta via tutto, la cosa è abbastanza incredibile. Qui a Milano sono tutti impazziti, ma la colpa non è delle persone. La colpa non è dell'ignoranza delle persone. Non do mai la colpa alla gente, al popolo, come dai invece tu. La colpa è di chi magari ha fatto credere che potevano chiudere pure i negozi. Magari se tu chiudi gli esercizi commerciali dalle 18 in poi, i bar a Milano chiusi dalle 18 in poi. Vabbè, quella è una misura anche corretta per evitare che le persone, il virus non si diffonde i bambini già non vanno a scuola, quindi già togli una serie di traffico. Che senso perché ha? Magari hanno chiuso anche i cinema e i teatri, per evitare luoghi molto affollati, no? E quindi prima delle 18 che succede nei bar? Non c'è la gente, ma si presuppone che magari la gente si porta la schiescetta da casa o non si fermi per troppe ore al bar. L'idea di fermarsi dalle 6 alle 9 a un bar, dai, magari ha indotto. Voglio sentire la gente su questo, ma la voglio gente dalle 6 in poi, dalle 6 in poi. Anzi, qualcuno potrebbe dire che è un complotto che hai organizzato tu, perché in tutte queste ore le persone staranno a casa. E i ristoranti? No, fammi dire, sei tu l'autore di questo coronavirus, perché in questo modo le persone staranno a casa, non avranno un cazzo da fare, ascolteranno la radio, i profitti della radio aumenteranno perché gli investitori metteranno. Tu hai creato il coronavirus per fare. Ma c'è meno gente in macchina, non è vero, c'è meno gente in macchina. Gente a casa ascolta la radio a casa. Ma che cazzo dici? Sì, anche. Allora sono stati i signori di Netflix. Intanto Pappalardo. No, dai, Pappalardo. Senti, Pappalardo. Allora, cominciamo a dire che cos'è il coronavirus. Ecco, sì, bravo, tu lo dici. No, ma come? Il semplice e normalissimo virus dell'influenza. Ma allora vai a Vaughana. Versa nel mondo com'è contro anni? L'umanità da millenni. Cosa dice? L'Homo sapiens, quando stava nelle caverne, soffriva di tanto in tanto di influenza. E purtroppo questo virus ci perseguita da parecchio tempo. Questi virus possono essere indotti, prodotti dall'uomo, ovviamente a favore delle multinazionali. Ma questi virus mutano spontaneamente? Hanno un'intelligenza interiore questi virus che dicono alt, l'uomo ci fotte e noi mutiamo? Oppure c'è una mutazione che avviene in maniera diversa? Indotta? I giornalisti delle lobby di potere dicono quello che vogliono loro. I giornalisti delle lobby di potere. I giornalisti di professione sono nelle mani delle lobby di potere nazionale e internazionale e danno le informazioni come vogliono, come fa comodo. Comunque, ragazzi, veramente c'è una corrente di pensiero secondo me, di poveracci alla fine, di persone che sostengono che sia una roba creata in laboratorio apposta per gettare il panico nel mondo, mettere, diciamo, alla mordacchia la Cina, cioè costringere la Cina a venire a patti con gli Stati Uniti e sostanzialmente creare un virus che è già stato creato, un vaccino, e dunque fare i soldi le multinazionali che fanno i soldi. Così. Il complotto è rassicurante. Ah, Conte, senti che ha detto ieri una cosa incredibile. Beh, è sorprendente. Come si fa un presidente del Consiglio a dire che è sorprendente l'aumento dei casi in Italia? Ma che roba è? Sì, confesso che anch'io sono rimasto sorpreso, siamo rimasti sorpresi da questa, diciamo così, esplosione del numero dei casi. Li abbiamo tenuti sotto controllo sino a poco tempo fa in Europa. Sorpreso dal numero dei casi? Certo, non se lo aspettavano, anche la OMS. Francesco da Milano, della sanità. Siamo nel podio, come mai siamo nel molto podio? C'è stata sottovalutazione dei casi in Italia e in Iran. Siamo sorpresi perché nel resto Francesco dell'Europa Milano, non è accaduto. Come Francesco mai? Da Milano, dimmi. E non hanno chiuso le frontiere. Dimmi. Ciao a tutti, buonasera. Dimmi. No, io la questione, cioè, per me il casino principale, l'ho combinato sempre con i giornalisti. Perché se ad ogni mostro... Francesco, sento poco, abbi pazienza, non iniziamo questa serata così, ti prego. Infatti, togli l'auricolare, viva voce, quello che hai. Non c'ho niente, sto fermo a casa e allora alzo anche il finestrino, così mi senti e non ho il telefono normale. Adesso, è la colpa dei giornalisti, avanti. La colpa è vostra, perché voi rompete i coglioni ogni 5 minuti con sto cazzo di bollettino di persone infettate, ma che dite quante cazzo di persone si salvano e sono quanti sono i guariti? Si può darsi che la stampa, insomma, l'informazione abbia la responsabilità, no, però il adesso è quello, perché panico è creato dal fatto che tutti parlano di questa cosa, i morti. Beh, morto dopo parla, morto, per forza, che bisogna ci fare. Sono le comunicazioni ufficiali di chi deve parlare, Adriano, il presidente da Roma del Consiglio, senti, il ministro della salute, non dire cose banali. Adriano da Roma, dai. Banali, Adriano da Roma, dai. Secondo me è incredibile il fatto che quando parli con delle persone di questo argomento ti danno ancora del razzista, o comunque ti guardano come se non fosse un vero problema, ti parlano di altri problemi come se questo fosse un problema minore, questo del coronavirus. Secondo me è inaccettabile come cosa. Ma chi ha detto che è problema minore? Nessuno, non ho capito. Secondo me è inaccettabile il fatto che il coronavirus non venga affrontato come un problema da molte persone e venga visto come... Ma chi l'ha detto ormai se ne occupano tutti, non di che parli? Non ti credere, prima invece... c'è stato il fatto che molti dicevano non si può bloccare tutto, no, è razzismo, volete bloccare i cinesi, volete colpevolizzare i cinesi, eccetera, eccetera, o quello che è. Fermi là, fermo. Il segnale orario vi è offerto da... Axerta, indaga, documenta, accerta. Axerta.it. La zanzara. Mauro, che è Mauro? No, vabbè, Mauro, dai. Ma perché mi avete messo in mezzo Mauro adesso? Ha chiamato Mauro, qui passa tutto al centralino. Non si capisce un cazzo di quello ma che dice. Ma cosa vuoi? Ma cosa vuoi? Mauro, mi hai rotto i coglioni, Victor. Ma vai da un logopedista, vai da un logopedista. Ma non si capisce quello che dici. Sei finito, sei morto. Sei finito, sei morto. Ma che parlare? Poi, tra non le altre si cose, capisce. Tra le altre cose, il cellulare nuovo l'ha comprato con reddito di cittadinanza. Lo compra con il reddito di cittadinanza il cellulare nuovo. Ma scusami, Mauro, dove l'hai comprato con reddito di cittadinanza? Certo, il telefonino, naturalmente. Certo. Mantenuto da Mantova. Certamente. Ma sei un mantenuto. Mantenuto, vergognati, mantenuto da Mantova. Mantenuto da Mantova. Mantenuto da Mantova. Perché il coglione di Cruciani, d'accordo con gli altri due imbecilli del centralino, hanno storpiato la mia voce per... dicendo si sente male, invece è tutta una balla, per rovinare il mio intervento perché vogliono affossarmi. Gianni, mi stavo chiedendo, ma Mauro da Mantova non l'ha ancora preso il coronavirus? Certo che ci voleva il coronavirus per far lavare le mani a quel sozzone di Cruciani. sei un zozzone, magari ti lavi anche il pisello e il culo, visto che c'è il corona, zozzone. E poi aggiungo che quel povero cinese ha rischiato tantissimo dandoti il bacio in bocca, per me è lui che si prende qualche malattia da te, altro che hai voluto sdrammatizzare, zozzone, sei un zozzone, e lavati quei cazzo di capelli, zozzone. Croce Lenzo. Perfetto, possiamo cominciare la trasmissione, grazie. Ragazzi, non c'è solo il coronavirus, c'è molto di coronavirus, ma non c'è solo il coronavirus. Intanto fra poco ti farò sentire un briatore scatenato contro il governo. Signor briatore, signor briatore, che dice delle cose incredibili, sono delle teste di cazzo, non sanno nulla. Di Maio ha solo venduto qualche bibita, ci dobbiamo ribellare a questo governo. Sta facendo un suo giro nel Far East e fa un video contro il governo bellissimo. Ma c'è soprattutto questo mega scazzo imperiale, questo mega scazzo direi imperiale tra Sgarbi Barbara D'Urso e Vittorione Sgarbi. Però perché ha aggredito la signora D'Urso? Beh, inutile, cioè, che come faccio, nasce allora, la moviola, faccio, e tutto sì, questo? Sì, la moviola è questa, molto semplice. Lui a un certo punto dice che una delle partecipanti, uno o due partecipanti, sì, non è che dice una cosa clamorosa, dice anche una cosa, sì, abbastanza, sì, sì, scontata. No, ma per capire che non l'ho seguita. Una delle partecipanti alla Pupa e il Secchione, dove lui ha fatto un, sì, intervento, eccetera, è stata sostanzialmente raccomandata pure dal signor Berlusconi, dice. Che non, vabbè, è una cosa così clamorosa, vabbè, cioè è una cosa abbastanza. Si scatena a questo punto l'attacco della D'Urso. Questa, sì, è la premessa, questa è la moviola, questa è il bar, il prequel. Vai. Che c'entra perché Stella? Quando arrivo, allora, gli sono simpatica. Sì, sono una bella ragazza e c'era uno che me l'aveva raccomandata, non so perché. Ma c'è tra... No, vabbè, sì, capito? La... Sei tu, allora, no? Non so neanche chi fosse lui. Allora, posso dire una cosa? Sì. Ma di chi stiamo parlando? Un signore che mi ha telefonato, c'è una mia amica bravissima, vedi tu, te l'ho detto anche. Ma io conosco signori, no? Chi è? Sono stato un tuo fidanzato. Senti, Vittorio Duccio, stai a provare stasera, che stai facendo? Guarda che non è bella la cosa che hai detto su Stella questa sera, la raccomandata di Berlusconi? Ma non è vero! Ma di che non è vero? L'ha raccomandata lui! Ma perché dici questa stupidaggine? Mi ha telefonato, ma ha detto, è impossibile! Ma figurati se fa una cosa, ma perché devi inventare queste cose? Puoi inventare la verità? Ma perché lo devi dire? Ma mi ha detto anche di te, è una bella ragazza, quella D'Urso. Cioè ti ha raccomandato pure me? Sì, anche di te. Ti ha raccomandato pure me? Ma sai quanti calci nel culo che ti do, Vittorio Sgarbi? Dai, su, che si gioca, si gioca, perché dai. Parli, perché parli in questo modo? Sei peggio della Mussolini. Come? Perché parli in questo modo? Perché stai dicendo che può uno raccomandare una donna mia? Può o no? Porca puttana. Da qui c'è la tragedia. Non si capisce perché quando a un certo cambia punto, il tono della voce, sì, è la tragedia. Perché a un certo punto tragedia. C'è una specie di crescendo. Come si passa dallo scherzo, dal riso, esatto, alla perché battuta, lui, al dramma? Perché lei lo senti dal tono della, ecco, voce. Nel mio... Fermate quel frame, per favore. Fermate quel frame. Perché a un certo punto. Fatemi sentire, dai, naturalmente. Fatemi sentire. Ecco, aspetta, qui. Perché stai dicendo che può uno cacchiare? È finita. Perché in quel porca puttana, sì, c'è l'inizio, c'è della tragedia. Sì, ma già qualche. Fammi sentire qualche millisecondo. Sì, perché frame, prima. Aspetta, prima. Ti spiego, Freccero. Perché prima lei dice ti prenderei a calci nel culo, cosa, ecco, che per Sgarbi è insopportabile. Però lì ancora. Però c'era, lui poi se c'è il tarlo, si mette il tarlo nella testa. Si mette il tarlo, quindi ci vuole un attimo perché scatti. Però quello è la ragione. Cosa? M'ha detto, non so che cosa? Cazzo sia lei. M'ha detto, mi raccomando, cosa? Ragazza, sono cazzi nostri o no? Sì, ma fa il culo. Sì, ma hai rotto il cazzo. No, lo stai dicendo a me. Sì, dico a te. Ma lo stai dicendo a me. Sto dicendo a te, ma che il cazzo è tuo. Dai, tua nonna. Allora, sei impazzita tu. Ciao, Vittorio, grazie. No, ciao, un cazzo. No, vai, ciao, via tu. No. Vai, ciao, via tu. No, ciao, vai, esci tu. Da qua. No. Io me ne verrò fatto. No, io non vado via di qua. A fare il culo. Ma pensa un po' a me. Vittorio, ti prego. Vittorio, che? Qui c'è la degenerazione totale. A quel punto è finita, certo. Finita. Ti prego di andare via. Ti prego di non insultare, di non andare via. Me. No. Tu hai insultato io me. Io non ho insultato te. Tu tu non vieni qua in diretta in una trasmissione a raccontare i fatti tuoi, chiaro? Non racconto nessun fatto mio. Come no? Ho raccontato dici quello che mi hai capitato la allora, dici che qualcuno ti ha raccomandato non so chi una sia ragazza. Lei, uno, a me non piace, allora, il problema? Finché ci divertiamo e ridiamo, ridiamo. Sì. Poi hai messo in causa anche me, che nessuno si deve mai permettere nella vita in 43 anni. Non ti devi permettere di cosa? Tu di cosa? Farmi le prediche. Cosa? Pensa alla tua vita. Le prediche? Non certo prediche che le faccio, sei nella mia trasmissione. Hai un cazzo di vita tua. Silenzio. Non rompere i coglioni. A questo punto poi degenera perché lui attacca la vita inutile, eccetera, eccetera. Però la questione è finita, non c'è più niente da fare. Aspetta, vai, vai. Ti vai per favore, via. Vai via tu. No, io non vado via, è la mia trasmissione. Io sono l'ospite. Non puoi dire parolacce nella mia trasmissione. Non dirle tu. Io non le dico. Capra, io incapace. Ti sto chiedendo. No, non fai ridere. Io fai ti ridere chiedo tu. Per favore di lasciare questa trasmissione. Non lascio niente. Non... Certo. Non lascio allora niente. Chiedi scusa. Ma chi è scusa? A me. Tu discuti quello che a dico me. Io. Ma chi certo. Scusa? Io rispondo certo. Come pare a me. Hai certo. Fatto una domanda? No. Ho risposto. Io non ti ho fatto una domanda. Ho appunto detto, sono questo. Andato, che mi hanno censurato, ha? Mi hanno tagliato ha? E una persona bene? Mi ha detto, ti raccomando beh, una ragazza sì. Che è brava, sì. Punto, non mi ha chiesto di fare niente. Ho detto tu cosa, hai parlato però di raccomandazione, hai fatto anche dei nomi, italiana. Ripeto, si chiami Berlusconi, Giusepponi, Francesconi, sì, non mi, non mi interessa. Gusto, no? Stai, non sai che devi fare la pelle che del buono, non so chi stai dicendo una cosa uno. Poco carina. Oh, e ma soprattutto non so chi sia lei. Non ho ha detto, importanza. Ma senti, se due pazze complete. No. Io ho raccontato. Allora io devo andare. Capitato, io purtroppo devo andare in quando pubblicità. Quando mi hanno guardate, censurato. Purtroppo devo dopo andare che ho fatto una puntata bellissima. Non perché dice, non mi fai chiaro, parlare di Michelangelo? Pubblicità. Vittorio ha deciso di rimanere in studio? È il suo giusto posto. Sicuramente, per me te ne puoi andare, che io sono tuo ospite. Ma e basta, tu mi hai trattato basta. Parlando di culo a me. Tu a me non dici cosa che quelli che chiaro no. Senti, se poi guarda. Berlusconi mi parla di te, mi ha parlato di te. Senti, ti piace o no? Senti, guarda, Vittorio, facciamo. Senti, una... guarda, non fare quel tono da mamma. Facciamo... Senti, che no, non ho bisogno faccio... di prediche da nessuno. Senti, guarda, Vittorio, senti, facciamo guarda, una cosa. Senti, guarda. Senti, guarda, Vittorio, facciamo senti, una guarda. Cosa. Io ti ignoro. E io ignoro anche te, okay. Frega niente. Perfetto. Oh, resta lì col tuo telefonino. Ti ignoro perché nel momento in cui e tu ignori, sei così no, cafone da cafone non volere sei neanche. Tu. Perfetto, io non ho detto però, niente. Ti ignoro. Andiamo io avanti. Ti ignoro. Benissimo, avanti, allora noi coglioni. Abbiamo passato una giornata a farvi vedere quanto sono sexy le pupe. Guardate. A un certo punto lui resta lì, dunque in qualche modo vince, diciamo, no? Sì, rimane resta nello lì studio, in studio sì, a farsi perché cazzi non posso suoi. Fare intervenire la forza lei, pubblica, no? Lei no, no, no, certo, no. Lei lo ignora, lei lo ignora. Sì. La sostanza e dopo è questa, lui perché si... lui non sopporta la D'Urso che gli fa la predica e non sopporta il fatto che certo. Lei abbia detto ti prendo a calci nel culo, sì, ti do due calci se in culo. Sì, detto in modo anche ah, sì. Con tono spiritoso, diciamo. Tommaso però... da Treviso, vai, Tommaso. Tommaso, dimmi. Sì, sono qua, Madonna dai. Santa. Allora, io ne ho per tutti e tre. Dimmi, perché? Dimmi. Tre ma non c'è, stasera con tardo non c'è. Dimmi, stasera. Dimmi. Mannaggia, ciò vi ascolto sempre sui vai, podcast. Vai, vai, forza, con... forza. Allora. No, perché in diretta come cazzo si fa con questa interruzione del cazzo? Parenzo, c'ha ragione a mille, ovviamente, quando dice che bisogna aspettare le affidarsi ai comunicati ufficiali avere il Ministero certo. Della Salute. Vabbè, perché dai, forza. Giustamente, non giustamente bisogna Ministero fare della Salute, l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Dai, forza. Però, se uno vuole anticipare un attimino gli allarmismi e prevenirsi, come diceva anche quello sprovveduto di Meluzzi, perché anch'io ho lo stesso pensiero di te. Vabbè, allora Meluzzi, ma certo, ma se uno vuole prevenire e magari qualche giorno prima dei comunicati ufficiali già occuparsi, prendersi insomma, Tommaso, sue... Tommaso sì. Che stracazzo vuoi? No, voglio dire che non potete. No, vuoi dire che cosa? Che cosa anche vuoi tu, dire? Anche che tu, cosa? Anche tu Cruciani, l'altro giorno che aveva chiamato quella dottoressa da Napoli. Augusto da Terni, diceva... non sei chiaro, non mi hai rotto i coglioni. Augusto da Terni, vai, forza. Augusto, dimmi. Ciao. Vai. Buonasera. Allora, cosa molto veloce. Gli cinesi sono in tutto il mondo, come sono in tutto il mondo, sono in Italia, ma sono anche in Africa. Vabbè, allora? Noi che facciamo? Continuiamo a far sbarcare tutti senza una minima prevenzione, senza quarantena. Non è che per caso gli quelli africani che sbarcano, hanno degli anticorpi che superano scusi, pure la malaria? Quelli magari. Che sbarcano sono sempre stati controllati questo. Prima da del chi? Coronavirus. Ogni volta che una nave arrivava o arriva in un porto italiano, la prima cosa che viene fatta, lasciamo stare il coronavirus, sono quelle immagini che anche lei ha visto in televisione e che ho provato a raccontare. Beh, cosa anch'io vuoi ogni dire, giorno Augusto? Che cosa vuoi medici dire? Che salgono sulle navi medici che salgono sulle navi, verificano e poi li fanno sbarcare, quindi non c'entra nulla. Se c'è il coronavirus, sapevano se ci fosse il coronavirus? No, prima no, prima no, nell'ultimo mese magari no, prima all'inizio no. Adesso. No, adesso no, non lo ma so. Li hanno fatto, sono le non persone so dove più sono controllate. Qua. Patrizia, provincia quelli di Lecco. Quelli che sbarcano sono quelli più controllati perché quelli Patrizia, vengono fatti sempre in provincia di Lecco, vai. Sì, buonasera. Allora, la mia riflessione è semplice. Il signor Conte non ha voluto chiudere le frontiere per non rendere l'Italia un lazzaretto. Nessuno però ha reso ha un frontiere. Lazzaretto il nord e se il nord affonda, affonda tutta l'Italia. Arrivederci, buonasera. Non ho capito, scusami. Cos'è un proclama? Non ho capito, Patrizia. Allora, Conte dice che non ha voluto chiudere le frontiere per non rendere l'Italia un lazzaretto, queste sono state le sue parole, ma come ha reso il nord, siamo diventati il lazzaretto noi al nord. Dunque? E quindi la colpa è del dire, governo, la colpa è del governo. Hanno gestito male la situazione. Fermi tutti. Adesso la borsa. La zanzara. Tu, piccolo pompino, vuoi attaccarmi il coronavirus? Che cazzo fai, così? Bastardo maledetto! Ma sai quanti calci nel culo che ti do, Vittorio Sgarbi? Dai, su! Che si gioca, si gioca, perché dai! Parli, perché parli in questo modo? Sei peggio della Mussolini? Come? Perché parli in questo modo? Perché stai dicendo che può uno raccomandare una donna a me? Può o no? Porca puttana! Lui, però tu non c'hai né guanti, né camici di plastica e tu non ti riguardi per niente. Poi venga a casa e c'è, attacca a noi, stava a piangere il culo, Carlo, perché non ho ragione? E tu pure, non vieni con quel sorta di naso che ti pie tutti i microbi in giro, Sono Mosca e sto rientrando in Italia in questo momento, se mi lasciano passare, perché a quanto pare c'è un impestato sul volo. Siamo ancora sull'aereo Mosca. Adesso siamo appena sbarcati, hanno lasciato l'untore sul volo, mentre il resto siamo scesi dal volo. Grande Max! Grande Max. Ciao, ciao Rocco, ciao Rocco, ciao. Extra coronavirus, caro Parenzo, c'è un'altra notizia di cui voglio parlarti. C'è un signore, sostenitore della Terra piatta negli Stati Uniti, esattamente mancava in California, sì. Un 64enne. Che voleva partire con un razzo, con un razzo questo, molto raggiungere 1500 metri. 1500 un razzo metri. Che ha costruito lui, peraltro. Sì, un razzo che si è autocostruito, un signore evidentemente facoltoso, 64enne, che a un certo punto ha in testa questo progetto: raggiungere 1500 metri e poi dimostrare che la Terra è piatta. Solo che certo, si è schiantato. Certo. Si è schiantato. Cosa gli devo dire? È VIP? Voleva fotografare da 1500 metri la Terra piatta. Quindi abbiamo la prova che la Terra non è piatta, no? Abbiamo la controprova, non grazie so, questo a questo. Non lo so, però si è schiantato. No, la Terra chiaramente non è piatta. Ecco, non, però, dire, non lo so. No, però questo signore, cioè non è che da questo abbiamo la prova. Non c'è bisogno di uno che si schianta con un razzo perché vuole provare che la Terra è piatta. Non c'è bisogno, però, amico caro, sai com'è. Se uno si mette in testa che la Terra è piatta e vuole, senza coinvolgere altre persone, dici alla fine sono cazzi suoi, dici, no? È abbastanza inevitabile. Uno gli dice: no, fratello mio, guarda che la Terra è tonda. Non guarda è che non, no, è bene, no, costruirsi, no. Autocostruirsi un razzo. Esatto, costruirsi un razzo. No, io voglio investire tutti i miei soldi, fare un razzo più potente del mondo. Fratello caro, guarda che il razzo che tu stai costruendo e il fatto che la Terra è tonda rischiano di arrecarti qualche danno. No, no, no, no, no. Sale sul razzo e poi muore. E che gli vuoi dire, amico caro? Ci dispiace, beh, fratello ci dispiace, mio. Insomma, cose che succedono. Ci dispiace perché ci dispiace di più per chi muore di coronavirus, diciamo. Beh, questo senza rispetto a uno che prende un razzo, se lo autocostruisce, sì, senza dubbio, senza e dubbio. Poi si schianta senza perché dubbio. Questo razzo, no, non funziona. Con tutti magari intorno che gli provavano a spiegare, fratello caro, non è così. Ma il tema non di è controbalzo, questo. Di controbalzo, in Gran Bretagna c'è un altro, un tizio che beve urina da 4 anni. Da 4 anni? Da 4 anni questo, beve urina. Ma è viva. Non lo sai problema. Perché lo fa questo signore? Perché non lo sai perché lo fa? Ma... Perché lui sostiene che l'urina non fa invecchiare, che non fa bene alla pelle. Bene. e anche sostiene ancora che è contro la depressione, cioè non fa deprimere. Ma non la c'è signora nessun problema. Può continuare a 32 avere anni. Tutto que- non hai capito. Dice, per me... questa è la medicina più potente che abbiamo contro l'invecchiamento. Benissimo, benissimo. Lette queste due cose, passo la parola a Mauro da Messina. Vai Mauro, dimmi. Intanto chiedo umilmente scusa alla merda per averla accostata ai comunisti. Ma chi sarebbe questa? La merda mi deve scusare per averla accostata ai comunisti. Ma e quando? Poi da domenica abbiamo nuova giurisprudenza in Italia grazie a un magistrato. Sì. Quindi io domenica mattina vado e mi faccio una bella minata sull'autobus. Bella, una bella minata. Minata e sarebbe una masturbata. Perseguito. Sì. Non vengo perché di domenica le minate sull'autobus, siccome sono state fatte da questi clandestini, parassiti e scrocconi, sì, non è perseguibile legalmente. Siccome non è perseguibile legalmente, pure io domenica vado e me la miro sull'autobus. Quello che si è masturbato sull'autobus è stato assolto. No, è di domenica, capito? Siccome è clandestino, miserabile, scroccone e parassita, sì, non viene colpevolizzato. Beh, ok? Non è stato e poi condannato. Un'altra cosa al Papa che ce l'ha con i populisti. Senti, Papa, sì, l'elemosiniere che ha aperto la luce, ha lasciato la luce in quello stabile, sì, dove sono tutti fuori legge e senza licenze. Dove è l'elemosiniere? Si è ficcato nelle fogne quell'elemosiniere. No, non lo so. Si è aperto la bocca. E poi dico, ma come fa questo qui a parlare così di un uomo di chiesa? Ma come fa questo? Ma questo poveretto, ma come si permette? Negli attici di 400 metri che hanno. Ma come si permette questo Mauro da Messina a parlare così? Ma come si permette questo Mauro da Messina? Mauro da Messina, ma chi è? Chi è Mauro da Messina? Ma chi è Mauro da Messina? Chi è? Chi è? Come si permette di parlare così? Come? Ma come si permette di parlare così? Tu hai il coglionavirus. Tu hai il coglionavirus. Il coglionavirus. Tu sei, ma dico, come cazzo sei così brutto? Porca puttana. Hai il coglionavirus. Ma questo che c'è, Massimo da Messina? Disse Mauro da Messina. Disse Mauro da Messina. Responsabile a questo governo, dove un ministro dice il virus e l'altro ministro dice che c'è. E poi c'è Mauro da Messina. Il passo del Brennero. Si va in galleria al Toninelli era nell'altro governo. Quello era nell'altro governo. Salame d'un salame. Era salame, nell'altro governo. Salame d'un salame. Era il ministro Toninelli. Toninelli nell'altro governo. Salame d'un salame. Questo è vero. Questo è vero. Mauro da Messina. Mauro da Messina. Scusami, Mauro. Il ministro della sanità è uno che se mi candido io prendo più di lui. Scusa, questo ho dei, su questo ho dei dubbi. Su questo ho dei dubbi. Scusami, Mauro. Sai che io alle volte invoco l'intelligenza artificiale per evitare i coglioni come questo? Cioè, ci vorrebbe più l'intelligenza, l'intelligenza artificiale ci aiuterà a superare Mauro da Messina. Il povero Mauro da Messina, poverino. Non parlo con persone che hanno, poverino, un cervello che è grande come la scoreggia di una farfalla. Mauro da Messina, Mauro da Messina. Evviva, evviva, evviva. Ti abbraccio, ti auguro tanta salute, amico caro. Tanta salute, tanta salute ti auguro. Ti auguro tanta salute, tanta salute, amico caro. Scusami, Mauro. Tanta salute. Fermi un attimo, Mauro. Scusami un attimo, voglio capire una cosa. Ma il coronavirus, secondo te, è colpa del governo? Scusami, gli hanno detto a Salvini fino a due domeniche fa, il governatore della Toscana gli ha detto che era uno che provocava pandemie, provocava apposta. Ora dove il governatore della Toscana, dove? Che ha detto che Salvini era un istigatore, che Salvini siamo i secondi al mondo. Terzi. Ora che cazzo fanno? I clandestini ora li fanno entrare tutti. Il primo clandestino che ha il coronavirus, prendiamo a Parenzo e gliela facciamo ficcare nel ma poi dico Parenzo, perché cazzo non te ne vai in Africa? Te ne vai in Congo, l'Africa però e ti sbrai, al momento, caro Mauro da Messina, l'Africa è più sicura di altri paesi in Congo? Al e momento tutti là vicini. Al momento l'Africa risulta essere più sicura rispetto al cazzo, in Africa non esiste un cordone sanitario, manco con la siringa. Lei in che anno è nato? In che anno è nato lei, Mauro? Scusi. In che anno è nato lei, scusi? In che anno è nato? Quella fissa di tua sorella. No, in che anno è nato lei, però? Quella è. No, quella, ma in che anno è nato? Tu ti fai curare le sì, hai ragione. Ma sì. Ma in che anno è nato lei? Ha ragione. In che anno è nato? Non lo so. Prima di te. Ecco, in che anno è nato? Esatto, ma in che anno? Ma che te ne frega? In che anno è nato? Voglio sapere. Sì, sì, sì, di più, di più. In che anno è nato? In che anno sei nato? Sì, sì, sì, sì, tu e tua madre. Ma in che anno sei nato te? Non te lo vuole dire, non te lo vuole dire. La legge sull'aborto non c'era, infatti. Non c'era la legge sull'aborto, la 194 all'epoca, perché lui è nato prima del 1968. Cioè, perché secondo te la madre avrebbe dovuto abortire, ma immediatamente, immediatamente, se l'avesse saputo, boom, Francesco da Roma, vai, Francesco da Roma. Dimmi, Francesco, dimmi. Non si sente. Fabio da Rieti, vai, Fabio da Rieti. Poi Francesco da Roma, Fabio. Pronto? Dimmi, Fabio, dimmi. Ciao ragazzi. Dimmi, dimmi. Allora, un paio di cosette. Innanzitutto vorrei chiedere scusa a Parenzo per avergli dato del comunistoide. Non è un comunistoide, è un fascista. Perché è dici? Un fascista. Perché dici? Un fascistello piccoletto con gli occhi da panda. Ma perché dici fascista? E ti spiego perché. Ma tu mi vuoi, mi devi giustificare come si fa a uno di 70 anni di trattarlo in quel modo. Ma chi sarebbe? Chi sarebbe? A Meluzzi gli devi chiedere scusa. Ma Meluzzi, ma di cosa stiamo parlando? Ma state parlando di Meluzzi. Aveva ragione. Ragione. Gli devi chiedere scusa a uno di 70 anni. Non si può trattare in questo modo. Tu non sei un comunista. Tu sei un fascista. Aveva detto che le scuole andavano chiuse. Infatti. Infatti sono state chiuse. Sei un fascista. Arrivederci. Ciao Fabio, caro, ti abbraccio. Ciao. Allora, è con noi il direttore di Libero, Vittorio Feltri. Eccoci qui. Hai capito. Hai capito. Accusato ancora una volta per un titolo che ha fatto un paio di giorni fa. Beh, ti credo. Ne parleremo. La prima cosa che voglio chiedere però a Vittorio Feltri è questa: ma come sta vivendo questi giorni? Immagino che non te ne freghi nulla. Questi giorni drammatici per l'Italia del coronavirus. Come sta vivendo personalmente? Te ne frega qualcosa, Vittorio? No, niente, perché io penso alla salute, non al virus. Beh, questo però, le due cose possono essere collegate, diciamo, no? Boh, insomma, chi le vuole collegare le collega. Io penso alla mia salute, poi del virus non me ne frega niente perché in fondo è un'influenza. Cioè, in fondo tu pensi che sia una roba così? Ma no, come tutte le cose all'inizio fanno paura, questo è un nemico sconosciuto, quindi a maggior ragione terrorizza. Questo è evidente, però sono anche convinto che tra qualche giorno finirà questa... Qualche giorno devo trovare il vaccino, ancora non è stato trovato il vaccino, quindi è chiaro che c'è paura, per forza. Allora, no. Lasciamo dire a Parenzo. Ma no, ma voglio dire, ma su questo sarai d'accordo anche tu, non hanno trovato il vaccino, per quello fa paura, no? Ma no, ma ho capito, ma non è che stiamo dicendo delle cose distanti uno dall'altro. Ho sentito uno che ti dava del fascistello fino a poco fa. Ma sì, questo io questo non l'avevo mai pensato, però. Un povero mentecatto che chiama. Forse non ha tutti un povero mente. Però scusa, tu dici fra poco finirà. Però l'altro giorno sul Libero sei stato contestato, esatto, per avere fatto un titolo, vergognoso. Prove tecniche di strage. Il governo procurato agevola... allarme, un reato procurato allarme. Se lo si vuoi denunciare, no, io non denuncio nessuno. Prove tecniche di strage. Tu ti rendi conto? Ma perché? Cioè, spiegaci questa cosa qua. Scusa, Parenzo dice che è una vergogna. Ma no, Parenzo, solo chiunque di buon senso dice che è una vergogna. Adesso se lo dicesse qualcuno che stimo, va bene, potrei anche cercare di riflettere su questa cosa. Ma siccome la dice Parenzo, so che è sbagliato. Sì, ma non sono l'unico. Quello che dice Parenzo è sbagliato. Ma non sono l'unico. Non sono l'unico che ha criticato quel titolo. Non sono l'unico. Mica l'unico stupido in Italia. Sono in grande buona compagnia, evidentemente. Sei l'unico stupido. Ma perché tu sostanzialmente dici che il governo ha agevolato l'arrivo del virus in Italia? Questo è il punto. Ma caspita, non ha fatto nulla quando Fontana e Zaia gli hanno detto dobbiamo fare le quarantene, dobbiamo chiudere le scuole. Ma questo parlo di 15 giorni fa. Sì, ma scusa, ma se il carnevale di Venezia è stato bloccato ieri. Fai finire. Quando dicevano? quando dicevano che era necessario intervenire drasticamente per evitare l'espansione dell'infezione, no? Sì. E invece il governo se n'è fottuto, forse ha sottovalutato. Ma ha bloccato i voli. Però si è rivelato un errore gravissimo. Perché non devo dirlo? Perché non devo dirlo? No, ma infatti, ma strage, parlare, ma non è che uno ti dice cosa, scusa, è un principio completamente diverso. Quello che viene criticato è il titolo, il modo di dare le notizie, cioè parlare ma di tentata strage. Tu e ma no, tu devi, dovresti fare informazione, dovresti parlare di prove tecniche di strage, ma certo che mi preoccupo. Il giornalista fare le domande e poi stare zitto e far rispondere. Esatto. Fai un casino. Allora, ti faccio una domanda, prove tecniche di strage è o no un titolo del cazzo, punto di domanda, visto che per fortuna se non c'è nessuna strada. Se fosse un titolo del cazzo non l'avrei fatto. Non l'avrei approvato. Dov'è la strage? Dov'è la strage? Dove sono le prove tecniche di strage? Ma infatti sapevo che era tuo questo. Non c'è la strage, sono le prove. Dai ragazzi, però non si può discutere su una cosa, su un titolo di un giornale che chiaramente, cioè, tende chiaramente a fotografare quello che potrebbe avvenire, a far parlare dai. Di sé, è il giornale che fa parlare di sé anziché parlare di notizie. Questa è la differenza tra un giornale che vuol far parlare di sé anziché dare notizie. È una differenza fondamentale. Stai zitto un attimo, tant'è che si parla dei titoli di Libero, non di quello che c'è scritto dentro Libero che nessuno legge. Questa è la differenza fondamentale e lo devi dire anche tu, Cruciani. No. Si parla di Libero. Infatti siamo l'unico quotidiano che guadagna tutte. Però scusa, io vado dietro. Si parla scusa, di Libero, non di quello stai che c'è scritto io, dentro io vado Libero. Dietro. Stai zitto, non mi interessa questo. Io vado dietro a quello che dice Vittorio. No, nei primi giorni, chi proponeva la guarda. L'amichetto. No, sei l'amichetto. Ma vai a cagare, figurati. Cioè, litighiamo mille volte. Litighiamo. Non è quello. L'amichetto. Non riesco a capire niente perché. E il nano lì continua a rompere i coglioni. Sì, no? Vabbè, ecco, sentiamo il gigante del giornalismo. Posso anche il gigante sei tu, perché io non è che sono obbligato a parlare con voi. Hai ragione. Mi potrei anche con molta gentilezza mandare a fanculo. Sì, questo avviene questo normalmente. È vero. Avviene però posso dirti una cosa. Quando uno scrive, quando uno sostiene, nei primi giorni che cosa è successo? Che quelli che dicevano facciamo la quarantena, chiudiamo le frontiere, facciamo più controlli con i cinesi che arrivano, anche con i non cinesi, veniva accusato di razzismo. Sì o no? Sì, veniva accusato di razzismo. E Vittorio lo sa bene. Adesso, quando si è scoperto, perché lo dice un signore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che l'Italia forse ha sbagliato perché non ha tracciato l'arrivo di tutti i cinesi e non ha messo in quarantena tutti quelli che provenivano dalla Cina. No, sto dicendo quelli che vengono dalla Cina, tutti quelli che vengono dalla Cina. A Prato, com'è la situazione a Prato? Prato. Aspetta, ma io so perché a Prato non c'è stato neanche un caso. Perché? Per ora. C'è la massima concentrazione di cinesi, perché i cinesi che sono tornati dalla Cina e sono rientrati a Prato volontariamente, si sono sottoposti alla quarantena. Autoquarantena, sì, autoquarantena. Quindi vedi che il problema non sono i cinesi. Siccome inizialmente si era detto controllare i bambini, inizialmente si era detto senti, i bambini cinesi non mandiamoli a scuola. Fammi chiedere una cosa. Vittoria, scusa un attimo, tu rischi qualche cosa? Tu hai una certa età, non è che hai paura di prendere l'influenza o no? No. Avrà fatto il vaccino. No, io ho paura dei testi e ce ne sono tanti. Ma il vaccino l'avrà fatto quello contro l'influenza normale, ovviamente, come ma tutti. Ma che te frega te, cosa ma no, mi lo auguro per te, questo te l'ho chiesto con amore, voglio dire. Ma non augurarmi niente per me, io ti auguro invece le cose peggiori. Ma io ti mi auguro che invece tu non ti ammali in alcun modo. Perché scusa, abbiamo... tu in metropolitana, per esempio, ci vai qualche ma volta? Ma non va mai, c'ha l'autista io questo. Io in metropolitana non vado da 45 ai 50 anni. Vedi, appunto. E dunque, là è c'ha un l'autista, rischio. C'ha l'autista. Io... certo, vado in macchina. C'ha l'autista di colore, c'ha l'autista di colore. No, non è di colore. Non è di colore. L'autista cinese, c'ha, che gli apre la porta. Dottore Feltli, ecco Libero, è arrivato il giornale, dottore. Ecco il giornale. Libero, cosa scrive? Oggi dottore sul giornale cinesi certificano la tua imbecillità, non fai neanche ridere. Scusami, dottore Feltri, è arrivato Libero. Sono le 11 del mattino, torno prendo la luna per andare a pranzo. Questo razzista di merda sta prendendo per il culo i cinesi, sto prendendo, sto prendendo in giro le giornate lavorative del dilettole. Arrivo a prendere la luna per il mangiare, mentre io per il cinese ho grande stima perché lavorano, non come fai tu questi grandi coglioni. Ma figurati, ma figurati. Scusami, Vittorio, scusami un attimo, però c'è una cosa fondamentale. Dottore, ho le 20. senti, Polto cena, dottore. Allora, c'entra? Chiuso giornale, dottore. Polto Lola, Baglioni. A cena, Baglioni. Ma tu, ma guarda che è proprio scemo. Chiama gli infermieri, chiamate gli infermieri, poverino. Ha bisogno di soccorso. Prendele, dottore Feltri, di libero. Guarda, le 20, chiudo il giornale. Tu non hai il virus, tu hai un fatto nel cervello. Ma, scusami, per te chiudere gli stadi hanno fatto bene. Per me è una follia chiudere gli stadi. Ma posso dire. Anche per me trovo idiota. Tanto è uno sport che si svolge all'aperto, non dovrebbe. Ma cosa vuol dire? Ma poi lo stadio, oppure, ma perché cosa allora vuol dire, non chiudi le metropolitane? Tutti vicini, perché no? Non chiudi le metropolitane? Non va, chiudi i trasporti, lo stadio è la stessa cosa. Dai, su, 30.000 persone, 40.000. Tenere per delle ore delle persone vicinissime come allo stadio, ma è evidente che è più pericoloso, sì, rispetto al. Sulla bocca, non si baciano sulla bocca. Sì, primo. Secondo, secondo, c'è un'altra cosa. Se tu vai oggi nei supermercati, ieri andavi nei supermercati, erano tutti affollati, pieni di gente, sì, migliaia di persone, tutti insieme. No, ma tutti insieme vanno. Che cazzo vuol dire chiudere gli stadi? C'è un servizio su libero? Lo fa comprato, assolutamente. Sì, vabbè. Comunque, mi sembra di capire che tu non rischi un cazzo. Mi sembra di capire, ma no? Figurati. Che... Ma mi auguro di non rischiare niente. Ma lui, scusa, va al lavoro con l'autista. Poche ore, sta lì chiuso nella sua stanza, esce, va a pranzo in una saletta riservata, ritorna alla cena a casa sua a Milano in un attico meraviglioso che contatti ha con le persone, nessuno. È vero che hai pochi contatti. Tanto meno con te, tanto ma certo, meno con ma te. Quello è evidente. Però è evidente. Che tu non hai, è vero che tu non hai molti contatti con le persone, Vittorio, d'altro canto bisogna dire. No, io non amo molto la compagnia, anzi la mia compagnia migliore è la solitudine. No, no, questo è molto interessante. È no, è bellissimo. Hai ragione. No, perché da questo no, nel senso, chi non ha molti contatti, chi non socializza molto, questi. Che c'hai? Un che po' c'hai? Di tosse, scusate. Hai la tosse? Che cazzo c'hai? Sei impazzito? La tosse? No, c'è il virus. Ma c'è il virus. È una cosa sì, pazzesca. Cioè, quando... Il virus ha una buona mira. Prepara il coccodrillo. Prepara il coccodrillo. Sì, sì, prepara il coccodrillo. Cioè, tu dici che punta gli imbecilli, dici tu. Sì. Guarda, no, non ne fallisce uno. Però è vero che chi non socializza molto, e Feltri dice che non ama molto socializzare, è difficile che poi venga intaccato, venga preso dal virus, no, Vittorio? Cioè, perché se uno non frequenta nessuno, sai, tu chi frequenti? Qualcuno in redazione, ma non credo che ti avvicini con la peso della sua stanza. No, li frequento, ma quando entrano nel mio ufficio stanno a 2,50 metri di distanza di sicurezza, ma non solo per il virus, sempre. Il bagno non lo usano. L'umanità vicina mi fa stupire. Certo, il bagno non lo usa perché si fregano pure i cessi a libero, quindi lui avrà il suo bagno privato, quindi figurati. Per cui contatti umani praticamente. Ma c'è una punta di invidia, sai? Sì, che... sì, è vero, c'è una punta di invidia, sì. Anche lui vorrebbe non socializzare. Per esempio, lui ha molti bambini intorno, David, ma mentre tu non li sopporti i bambini, naturalmente. Mi no, sembra... ma basta, bambini. Ne ho avuti 4, adesso diciamo che non è il caso. Non è il caso. Dottore, pronta cena per andare Baglioni? Ristorante Baglioni, dottore, ore 20, giornale chiuso. È veramente un coglione. È veramente un coglione. Comunque, dottore Feltri, pronto suovino, Barolo, qualcuno... pronto sassicaia, dottore Feltri, del mangiare pasta con sassicaia, dottore si raffredda. Ha chiuso. Vabbè, capito però. Scusami tutti, capito però. La Zanzara. Eccoci, Adriano da Roma, etero. Io volevo fare un ragionamento sugli aromi anali e vaginali. Dunque, buonasera. Io ho sentito all'inizio la trasmissione vostra che parlava degli odori vaginali. A me non me ne frega un cazzo proprio. Arrivederci, buonasera. Naturalmente. Vuoi fare una battaglia di libertà, Cruciani? Innanzitutto manda via quei due coglioni dopo la figura di merda sul coronavirus. Non sto neanche a dilungarmi. Battaglia di libertà, far andare a votare gli italiani, levare questi incompetenti golpisti a un governo che veramente, cioè, dopo questa cosa del coronavirus, come minimo si dovranno dimettere. Una cosa vergognosa. Salvini che voleva chiudere porti, aeroporti e frontiere è il solito fascista, eh? E intanto grazie a questi babbei di sinistra siamo il terzo paese più colpito al mondo dal coronavirus. Mazzo, bastardi. Avete preso per il culo Meluzzi quando ha chiesto la chiusura delle scuole venerdì sera. Adesso in mezza Italia sono chiuse. Parenzo e Gottardo si dovrebbero vergognare. Incompetenti, incapaci totali. Incompetenti e incapaci. Chiedete scusa Meluzzi. A Parenzo so Blasco. Ammazza che figura di merda con Meluzzi, oh. Sei proprio un salame, oh. Non vedo l'ora di prenderti a calci nel culo, guarda. Grande Meluzzi, grande Pope. Parenzo, sei proprio una merda umana da schiacciare. Arrivederci, buonasera. Intanto, caro David, hai sentito David Blasco, è sempre lì, eh? È sempre lì in attesa di questo grande confronto. Questo combattente di wrestling, mi pare si chiami così. Blasco, sì, Blasco. Blasco. Che ha detto di essere fascista, dire, ammiratore, sì, di Carminati. Voglio dire che inizia a rischiare grosso, e ti dico perché. No, sì, no, ti dico perché. Inizia a rischiare grosso. Perché? Che è successo? Che è successo? Perché potrei muovere i miei avvocati, far scrivere alla federazione del wrestling e segnalare che questo signore, oltre a essere un razzista dichiarato per me, assolutamente dichiarato, sì. Tenta pure di spaventarmi, cosa che purtroppo non fa, perché se ma no, sono in conto non c'è nessun problema. Vuole affrontarti a duello. Ma infatti non mi spaventa in alcun modo sto poveretto, sto miserabile qua. Ma penso che lo segnalerò alla federazione del wrestling. No, ma lascia, sì, beh, ma è già, sì, stato, no, fatto, no, è già, no, stato fatto. Però voglio farlo con una lettera ufficiale di uno dei miei avvocati. Voglio farlo chiedendo alla federazione se una persona così può continuare a svolgere il wrestling, che invece è uno sport anche divertente, interessante, fa molto ridere, pieno di impressioni. Ma perché di devi buttarla sempre perché sulle carte bollate, no, le scartoffie? No, voglio chiedere, ma ufficialmente, è, ma libertà, non libertà, è libertà, dai, insultare le persone. Voglio chiedere alla federazione del wrestling se questa persona è degna di partecipare ancora a questo tipo di cose. Ma poi perché? Dopo ce la ma che vuol dire? Sul resto delle cose ce la vediamo pure privatamente, non, no, c'è che nessun privatamente problema. Qui, se la vedete qui con un grande duello, duello verbale, se vuole. Ma intanto io voglio che ufficialmente la federazione del wrestling prenda una posizione su questo individuo. Ma qua, no, ma chi se ne frega? Che indegnamente rappresenta quello sport. No, no, questo, ma, lo voglio ma fare. Ma che però te ne frega? Sì, perché così dà una regolata sto ragazzotto qua. Blasco, se vuoi intervieni. Che ha scherzato con la persona sbagliata. Stai scherzando ma con, no, la persona, ragazzi, sbagliata. Ma ti sta invitando a duello. Poi ha, ma detto di duello? Essere un fascista, ammiratore di Mussolini. E io chiedo alla federazione del ma wrestling che te ne frega? Se questa mi interessa, se questa persona è degna di rappresentare la federazione. Vabbè, allora, intanto il complottismo, ragazzi, dilaga. C'è un signore che si chiama Marcello Pamio. È un signore che è un antivaccinista, uno di quelli che pensa ai peggiori complotti mondiali, le multinazionali del farmaco, eccetera, che parla in questo modo. Sentite, sempre a proposito del coronavirus, impazza il complottismo. Avete rotto il cazzo. Posso dirlo? Avete proprio rotto il cazzo, perché non se ne può più. Basta, è arrivato il momento di cambiare. Nel 2001 dovevamo morire per la mucca pazza, nel 2002 per la SARS, nel 2005 per l'aviaria, nel 2009 per la suina, poi c'è stato il morbillo, ora c'è il coronavirus. Milioni di morti e non se ne vedono. Prima la colpa dei polli, poi dei pipistrelli, poi dei suini, infine dei serpenti. E allora io ho capito che ci considerate carne da macello, né più né meno come dei pecoroni, non a caso avete inventato voi l'effetto gregge, però c'è un limite a tutto e avete proprio rotto il cazzo. Per chi? Per le solite note. Anche oggi le case farmaceutiche che stanno lavorando alacremente per la produzione del vaccino, dell'ennesimo vaccino, stanno fatturando miliardi di dollari e devono ancora produrlo. Figuriamoci quando sarà pronto, la popolazione si fionderà a farsi i vaccini. Quindi dobbiamo veramente svegliarci. Buona visione. E i media che cosa ci veicolano? Naturalmente immagini molto lungimiranti, disperazione, strade deserte, mascherine, morti, scenari da film di fantascienza. È tutto un complotto a favore delle aziende farmaceutiche. Intanto lui propone l'origano antivirale. Beh, senti, mancava l'origano. Altri rimedi avvengono dalla natura, e cioè dall'essenza spirituale delle piante. Gli oli essenziali, l'origano per esempio, è l'antibatterico maggiore a largo spettro e un antivirale fungicida a livello proprio respiratorio. Due gocce di olio essenziale in un cucchiaino, sì, di miele o olio di oliva sotto la lingua 2-3 volte al giorno è una terapia molto interessante. Per che cosa una terapia? Non ho capito, uno per combattere non so che cosa, non credo che intenda il coronavirus, no. Deve prendere due cose, di due cucchiaini, tre cucchiaini con, tre, con oli e origano. E cosa vuoi che ti dica? E che cosa vuoi che ti dica io? Anche la Santoreggia, prendetela, anche la Santoreggia, prendetela, senti, pure, non c'è nessun problema. Anche la Santoreggia. Come anche la Santoreggia, che è un potentissimo antibatterico e antivirale, sempre per le vie respiratorie. Anche qui il dosaggio viaggia sempre da 2-3 gocce di olio essenziale in un pezzetto di mollica, di pane, oppure in olio o miele. Giacomo d'Avellino, avanti tutta, dai. Giacomo d'Avellino, dimmi. Pronto? Mi viene una domanda, arrivo da te, Giacomo. Come sta vivendo il mondo della prostituzione? Questa situazione, cioè le puttane lavorano di più, lavorano di meno, è importante tutte saperlo. Le economie rallentano. È importante questa cosa qua, più tardi faremo un collegamento. Quello dei rapporti promiscui ancora di più, evidentemente. No, secondo te c'è un grande ribasso, cioè le puttane piangono. Beh, questo vuol dire le puttane piangono. Ma evidentemente quella dei rapporti promiscui è chiaro che hanno un rallentamento più degli altri, insomma, se la gente sta a casa, banalmente, come direbbe Feltre, con la propria famiglia chiuso in casa, è evidente che magari uno ritroverà una intimità con la propria moglie, può essere, no? E quindi, cioè, tu obbligato dici, questo a non periodo uscire. Porterà più fedeltà. In questo periodo potrebbe ci sarà portare più fedeltà e potenzialmente tra 9 mesi più nascite. La gente ha più tempo libero, sta a casa, fai un po' di telelavoro, ascolti un po' la Zanzara da casa, ti guardi qualche bellissima serie televisiva e stai non lì scopi nel con letto, le altre, no, meno stai promiscuità, lì nel letto, meno esatto, promiscuità, molta meno promiscuità. Giacomo, sicuramente. Giacomo. Le coppie magari si rimettono insieme, che ne sai? Dimmi. Volevo dire che dunque il governo si è comportato in modo irresponsabile già da un mese, che si sta comportando in modo irresponsabile, perché già prima che arrivasse il virus in Italia avrebbero dovuto chiudere voli e frontiere solo per la Cina, ovviamente, e avrebbero dovuto mandare degli aerei d'emergenza a prendere i turisti italiani in Cina. Vabbè, amico mio, ormai, cioè, quello che è stato fatto è stato fatto. Secondo me il problema è stato solo uno, quando hanno bloccato i voli, non hanno pensato, come dice oggi uno dell'OMS, evidentemente non abbiamo tracciato tutti quelli che qui arrivavano comunque dalla Cina, attraverso i voli intermedi, gli scali intermedi, questo mi sembra abbastanza chiaro. Andrea da Treviso, dai. Poi non so se sia stato questo decisivo nel far sì che oggi siamo il terzo paese più infettato. Andrea, dimmi. Sì, salve, buonasera. Io mi ricollego all'intervento di poco fa. Credo che la responsabilità sia quasi totale del governo, perché la questione è stata gestita malissimo. Io per questioni di lavoro prendo circa 70-80 voli all'anno e fin dai primi giorni di gennaio, quando questa situazione era saltata fuori, sono stato negli Stati Uniti e lì già dai primi giorni di gennaio a ogni passeggero che sbarcava negli Stati Uniti gli facevano il termoscanner e ai casi che risultavano sospetti gli facevano fare il tampone. Se poi ti rifiutavi di fare queste cose qui, semplicemente giravi i tacchi e se tornavi a casa. È la stessa cosa la facevano. Sì, ma guarda, anche qui a Fiumicino l'hanno fatto il tampone, lo scanner, lo scanner, lo scanner. Tre settimane fa hanno messo lo scanner all'aeroporto di Fiumicino. Ma non di il Roma. Tampone, non facevano i controlli col tampone. No, ma c'era lo scanner. Vabbè, allora Andrea è stato sottovalutato. È stato sottovalutato, però sono arrivati tardissimo, sono arrivati un mese dopo in queste situazioni è letale, un giorno è letale, figuriamoci un mese. Ma sì, ragazzi, c'è stata un'allergia, questo è abbastanza chiaro, c'è stata un'allergia, magari l'avrebbe fatto anche il governo precedente, c'è stata un'allergia a chiudere baracche e burattini, cioè a stringere... Ma nessun paese d'Europa l'ha fatto però. Ma non lo so, ma cioè, intanto... attenzione, nessun paese... può essere che abbiate ragione, non lo so, non ho risposte, stiamo cercando di informarci come tutti e di capire, ma nessun paese d'Europa ha chiuso confini, porti Daniele e aeroporti. Daniele da Pistoia, vai, Daniele da Pistoia. È un dato. Daniele, buonasera. Dimmi. Cruciani, posso dirlo? A me il coronavirus e ci ha rotto coglioni. Lo so, amico io mio, abito a 10 chilometri da Prato, sì, può lavorare, sono tranquillo, guardo qui la televisione, vedo i supermercati che non c'è più roba. mi fanno vedere immagini di gente di piazze vuote di... Ma pure lì non c'è più roba? Ma che? Ma io guardi, dico la verità, io lavoro tra Pistoia, Firenze, vedo le macchine normali, la gente normale. Qui a Pistoia non c'è nulla. E vabbè, perché non ci sono chilometri. Ho capito, cioè, ma non ci sono malati però lì, non ci sono malati, non ci sono focolai, non è come qui in Lombardia dove c'è l'inferno. Oggettivamente in alcune zone c'è il coprifuoco, certo, amico mio. Chi l'ha portato in Lombardia, scusi? Ma non si sa ancora, non si sa ancora, non si sa ancora. Ma quell'imprenditore hanno detto non si sa, non si, ma non si è trovato questo paziente zero, non si trova, non si capisce. Si pensava oggi che fosse addirittura di Albettone, invece adesso è arrivata la notizia che è negativo quello di Albettone. È negativo. Ma senti te. Che vuoi fare? Io so che qua è tutto tranquillo, però anche qui la gente, poi vedi qualcuno in mascherina, su Facebook qualunque cosa c'è sempre il coronavirus. Siamo diventati tutti esperti. Cioè tu dici che tutta questa, tu dici che tutta questa, tutto questo insistere sul coronavirus alla fine provoca il panico. Ma sì, ma poi cioè, veramente la televisione, Facebook, chiunque, neanche uno che sa che cos'è qualcosa di chimica. Però scusi caro, scusi caro ascoltatore che abita vicino a Prato, quindi no, l'abbiamo parlato anche prima. Allora... Se lei ad esempio, ma te lo dico in 40 secondi, se lei ad esempio avesse letto oggi l'intervista all'infettivologo Galli sul Corriere della Sera, si sarebbe rassicurato già di più. Cioè, avrebbe... Ma che non c'ha tempo perché? Di leggere il Corriere della Sera, Daniele? No, allora glielo dico io. Dovrebbe informarsi. Allora glielo dico io. Alla domanda precisa, in che modo si può pensare sia penetrato il virus in Italia? Domanda molto precisa. L'ottimo infettivologo dice: è verosimile che qualcuno tutti arrivato in una fase ancora di incubazione abbia sviluppato l'infezione quando era già nel nostro paese con un quadro clinico senza sintomi. Allora io le ho letto poche frasi, sono due pagine, se le vado a leggere cosa vuol dire questa cosa qua? Vuol dire, uno, che la questione non può riguardare soltanto i cinesi direttamente. Due, riguarda il fatto che se uno è arrivato qui e non aveva sintomi, evidentemente sarebbe potuto capitare in qualunque altro paese. No, se lo mettevano in quarantena perché veniva semplicemente per il fatto che veniva dalla Cina, no. Questo, ma non è detto che venga dalla Cina, però. Andrea, e come cazzo fai a essere... No, uno può averlo incubato a Francoforte ed essere poi arrivato Andrea qui. Da Forlì, leggete dai. Quello che ha scritto l'infettivologo. Vabbè. Andrea, dimmi. Allora, io salto i convenevoli e rivolgo dunque. Volevo fare un ragionamento. Allora, ste sardine, adesso che c'è il coronavirus, cioè loro si proclamavano cittadinanza attiva, praticamente... Sì, sono sparite le sardine in questi giorni, sono sparite. Ecco, potrebbero cogliere l'occasione andassero per tornare, a fare volontariato da qualche parte. Andare a fare il GSS allo Spallanzani o comunque... Vabbè, adesso non serve, per carità, però sono sparite le sardine. Col coronavirus sono sparite le sardine, il che potrebbe essere anche un bene in teoria. Però sono sparite, sì. Cioè a noi manca anche il materiale con le sardine. Dove sta Santuzzo? Che cazzo dice Santuzzo sul coronavirus? Ha parlato pure del buco del culo. Ci dicesse qualcosa pure sul coronavirus, dica, ma tutt'altro, ma ho capito, non c'è bisogno di parlare di cose che non si sanno. Parlino gli esperti, non c'è bisogno di cazzata. Certo. Per fortuna in Italia possono parlare tutti, per fortuna. Viva la libertà di espressione. Ma quella non è la libertà di espressione, non c'entra niente con la qualità dell'informazione. Vabbè, ma quella è un'altra cosa. Un'opinione è un'opinione, il fatto è come? Ma l'opinione dell'infettivologo Galli sarà diversa da quella di un coglione. Hanno parlato tutti, parlassero pure. Com'è che sono spariti? Santuzzo, dove sta? Ha parlato di tutto, parlasse pure di sto cazzo di coronavirus, andasse a fare qualche presidio, una manifestazione, una qualsiasi cosa, perché sono sparite le sardine? E dai, hanno parlato di tutto, giustamente quello se lo chiede, se lo domanda, no? Dai, Marco dalla provincia di Lucca, dai Marco. Ciao Cruciani, ciao Parenzo. Dimmi. Volevo mettere in evidenza una cosa che mi sembra un po' assurda. Sabato praticamente hanno comunicato il fatto che hanno messo in quarantena 11 comuni. Domenica a Viareggio c'erano quasi 200 persone al carnevale, 200.000 scusate, di tutta Italia. Sì. Io già questo lo trovo assurdo. Più assurdo è che domani... Ma c'era anche il Papa a Bari ieri con 40-50.000 persone. Carnevale. Ma sì, ma ragazzi, quelle sono cazzate, quelle sono cose delle autorità locali, se non la vogliono vietare... E gente da tutta Italia, ragazzi. Sì, no, ma sono d'accordo pure io, però ma voi non vi ricordate Chernobyl? Non ti ricordi cosa avvenne per Chernobyl? Un attimo, è l'incoerenza totale. Cioè, da una parte il Papa può fare una manifestazione con 50.000 persone e poi chiudono gli stadi, ma che roba è? Il Papa ha 50.000 persone a Bari e gli stadi chiudono, ma che cazzo di differenza c'è con 50.000 persone a Bari e il Papa? Ma a Milano però stiamo parlando, un conto è Milano, un conto è Bari. Ma vengono da tutta Italia quelli, vengono da tutta Italia. Vaticano. Ma per il Papa Bari non è che vengono solo dalla Puglia, vengono da tutta Italia, no? Ma dai, di che parliamo? Alle Maurizio stanno bloccati i Lombardi e i Veneti e i Romani no, li hanno fatti ma scendere. Non è così. Come no? Cioè, i costretti. Ma alle Maurizio si è fatta una follia, infatti. I Romani perché ma non possono avere preso il coronavirus dai Lombardi e dai Veneti in aereo, tra l'altro? Dai, su. Ma quello fermi tutti. Potrebbe fermi succedere, certo. La Zanzara. So che abbiamo tante telefonate. La Zanzara non può chiudere, non può, non può, non può. La Zanzara non può chiudere, non può, non può, non può. La Zanzara non può chiudere, non può, non può, non può. La Zanzara. Sono deluso e sto piangendo. Vieni. E sto piangendo. So che abbiamo tante telefonate. Poi, carissimo Parenzo, che è un omosessuale represso e frustrato. Lo diciamo qui, fuori dal coro, perché altrimenti non ve lo dicono. Cruciati, giuro che a momenti non riuscivo a dormire la scorsa sera perché non vedo l'ora di ascoltare la Zanzara. Non vedo l'ora di sentire i napoletani che ti insultano e te che ricevi gli insulti. Mi fa godere perché tutto ciò che hai detto ai napoletani in questi anni sta avvenendo alla tua civilissima Milano. Vendere i beni di prima necessità a prezzo maggiorato come mascherino a mucchina, dove avviene? A Napoli, a Roma? No, nella civilissima Milano. Oppure farsi prendere dalla psicosi e svuotare tutti gli scaffali del supermercato, dove avviene? A Roma, a Napoli? No, a Milano. Godo, guarda, godo, non vedo l'ora, godo. Come dice il demone scimmia, la gente deve pagare e con il sangue. Godo come un riccio, godo. Godo come un riccio. Godo. Peppe Crocia, accatti da mascherina. Accatti da mascherina, Peppe Crocia, a Milano arriva. Accatti da mascherina, Munnizza. Se potete chiamare i carabinieri, ci sarà qualcuno all'ascolto? Ma dai, lo sanno tutti che il paziente zero del coronavirus è qualcuno che è andato con qualche cinesella dei centri massaggi. Ma dai. Culo niente. Ma come culo niente? Culo niente. Allora, c'è un povero imbecille che mi scrive, parla di altre cose ma non parlare di scienza. Io non sto parlando di scienza, amico mio, non me ne frega niente, non so niente di scienza. Leggo però che i virologi o gli esperti litigano tra di loro su molte cose. Di questo parlo di teorie e di cose dette da altri, non quello che dico io. Non ho mai detto che bisogna chiudere le frontiere. Mai detto, no, che bisogna. Stai zitto un secondo, no, fammi aspetta, spiegare perché c'è un cazzate. Ma stai zitto un attimo! Stai zitto un attimo! Di fondi odio! Di fondi cazzate! Mi fai parlare un attimo, sto rispondendo a un ascoltatore. Allora, non ho mai detto che bisogna chiudere le frontiere. Dico semplicemente, ripeto, quello che sostiene un signore che si chiama Walter Ricciardi, che ha 60 anni e che è ordinario di Gena la Cattolica ed è membro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Costui dice che costui da oggi forse è stato preso dal ministero. Dice oggi: paghiamo il fatto di non avere messo in quarantena da subito gli sbarcati dalla Cina, abbiamo chiuso i voli, una decisione che non ha base scientifica, e questo non ci ha permesso di tracciare gli arrivi, perché a quel punto si è potuto fare scalo e arrivare da altre località. Inoltre, quando vengono contagiati i medici, significa che non si sono messe in campo le pratiche adatte, oltre al fatto che il virus è molto contagioso. Francia, Germania e Regno Unito, seguendo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, non hanno bloccato i voli diretti e hanno messo in quarantena i soggetti a rischio. Inoltre hanno una catena di comando diretta, mentre da noi le realtà locali vanno in ordine sparso. Questo signore qui non è, non, non sono cose che ho detto io, le ha dette questo signor qui dell'OMS, dunque non mi rompete i coglioni perché io non ho detto di chiudere le frontiere. E passiamo ad altro. No, ma c'è un altro elemento, oh, però. Che palle, oh. E fammi andare, non mi interessa. Sì, ma voglio dire una cosa. No, no, una avanti, cosa dopo, importante. Abbiamo già detto. Lui dice, se avessimo fermato alla frontiera questa persona che ha incubato il virus, ma che ancora lo stava incubando, va bene, se l'avessimo fermato alla frontiera avremmo anche potuto non renderci conto della, della sua essere, situazione. E fa un esempio. Va dice, in Francia un cittadino britannico proveniente da Singapore ha infettato diverse persone pur arrivando da una zona considerata benissimo, ad alto rischio. Grazie. Era solo per dire grazie. Che se uno legge fonti autorevoli grazie, capisce grazie. Il quadro. No, non capisce un cazzo perché ci sono 10 persone che la leggete che, i galli sì. Leggete i galli. Allora, c'è un tizio che fa in teoria il coach, si fa pagare anche tanti soldi, coach per motivazione, eccetera, eccetera, che si chiama Leone, il quale sostiene che il coronavirus è nato da esperimenti. Il coronavirus non è un virus che è nato dal pesce del cazzo. Quindi non è vero che le teste di pterodattilo che si mangiano i cinesi sono andate a male, incrociate con i pipistrelli. Non è vero nulla. Informati e vedrai che tutto nasce da esperimenti volutamente fatti nella Cina, dove non c'era solo la Cina a fare esperimenti. Le guerre batteriologiche finanziate dagli americani. Perché questi esperimenti nati realmente per le guerre batteriologiche sono finanziati ricco americano, gli americani, e questa diffusione di questo virus, fatalità fatta in un giorno specifico perché è accaduta, ci sono 15 giorni di incubazione, 15 giorni prima in quella città dove ci sono stati i primi casi sono andati 300 soldati americani. Bisogna capire quali erano gli obiettivi, perché finché raggiungeranno gli obiettivi con queste azioni di merda contro l'umanità, loro continueranno a farle. E una volta è l'ISIS, e una volta è la SARS, e una volta è l'Ebola, e una volta è l'AIDS. Documentatevi su tutte le malattie di questi ultimi anni. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è mettere paura alle persone, bloccare, inibire una parte di popolazione, la maggioranza, coloro come noi che cercano, si impegnano di migliorare la propria vita e di evolvere, per ha già bisogno di soldi. L'obiettivo è mettere paura alla gente, un grande complotto per far guadagnare evidentemente le multinazionali. Ma come stanno vivendo le prostitute questa situazione? Collegamento con la trans più conosciuta in Italia, la mia amica Efe Ball. Ecco qua. Buonasera, il turco. Eccoci, come va? Quella non lavora mai, figuriamoci. Come andiamo? No, bisogna vedere in questo periodo. Guarda, ieri ho lavorato, Parenzo, sì, oggi non ho lavorato, diciamo la verità, ma ieri ho fatto un cliente che era qui per White, per questo evento di architettura di design che ho fatto un cliente proprio a mezzogiorno, se vuoi sapere. Scusami, però in questo periodo, scusami Efe, ma la gente viene oppure ha paura dei contatti umani, dunque di andare anche a zoccola? Allora, oggi è stato come una domenica, diciamo così, anche la domenica quando uomini sono con le loro famiglie ovviamente chiamano poco perché prima devono, cioè, dunque mi stai dicendo che in questo periodo un calo c'è stato, l'obbligo di vacanza per tutti, allora credo che lavoreremo tutti quelli che lavorano come me, lavoreremo di meno. Però attenzione, io ti voglio dire una cosa molto importante anche a Parenzo. Dimmi. Abbiamo una è stato, cioè ancora oggi, ce l'abbiamo avuto AIDS, che sono morti più di 50 certo. milioni di persone allora? Nel mondo, ancora la gente scopa Cruciani. Cioè questo è, adesso che siamo con precauzioni, scioccati, ma sì, no? C'è ancora gente che scopa senza preservativo, attenzione. Cioè ancora te lo chiedono? Te lo chiedono? Io ti ho mandato anche i messaggi che mi arrivano. Non me lo ricordo, dimmi un po' che messaggio... Basta pagare, ma io ti ho mandato diversi messaggi di questi che vogliono comunque scopare senza preservativo al giorno di oggi perché di AIDS non si muore cioè, più. Cioè cosa non ti chiedono esattamente, Efe, scusami? Vogliono scopare senza preservativo. Cioè vogliono che tu glielo metti dietro senza preservativo? O altrimenti loro mettono a me. Ma il 90% metto io, quindi sì, vogliono che le metto io. Cioè vorrebbero che tu... preservativo, vogliono che vengo dentro. No, non ci credo. Cioè queste richieste qua. Ma io ho mandato diversi messaggi cru. No, ma lo so benissimo, voglio che me lo dici. Adesso faccio come Giletti, voglio che me lo dici. Ancora oggi, dopo una tragedia, da 30 anni abbiamo il problema di AIDS, che sono morti milioni di persone, non 2500, ma milioni di persone nel mondo. C'è gente che va a scopare senza preservativo, becca l'AIDS. Oggi non si muore più dietro, almeno muoiono. Ma tu nemmeno per una cifra come con questo coronavirus. Questo coronavirus è un segnale del Dio che ci dice: è segnale di Dio, non vi ho potuto fermare con lei, fermatevi almeno con questa cazzo di coronavirus. Levate le mani, non scopate senza preservativo. Siete più igienici, fate più docce, siete più attenti dove toccate, dove baciate, con chi andate a letto. Questi sono segnali di Dio che dobbiamo veramente essere oggi. Io sono molto credente, guarda, niente per caso. Come si fa a essere, scusami, per la prima volta in Italia non abbiamo più... Scusami, Efe, scusami un attimo. Non ho capito una cosa, come fai a credere in che cosa? Non si capisce, non so se sei cristiana, non credo, cioè... Io sono musulmana. Come fai a credere in Dio e poi a metterlo, a prenderlo in culo? No, per curiosità, per denaro. No, ma per denaro mica. Io vendo il mio corpo, non la mia anima. La tua domanda io posso rispondere così: se fosse una che vende l'anima per i soldi, allora il Dio non esisterebbe. Ma io vendo il mio corpo, il Dio per me esiste, io prego sempre ed il Dio per me esiste perché il mio è un lavoro per me. Io vendo il mio corpo, il mio anche tu stai vendendo in questo momento il tuo tempo. Sì, hai ragione, sto vendendo il mio corpo, la mia voce. Sono un prostituto. Sono un prostituto, è vero. Un po' diverso. Anche tu sei un prostituto. È vero. Bravo, figuriamoci. Piace la patata, Parenzo, ma sempre un prostituto sei. Tutti siamo prostituti. Scusa, tu vorresti. Hai ragione. Tu vorresti prima o poi incularti, Parenzo? No, è una mia fissazione. Prima o poi. Se ti ammale, Parenzo, ti vengo a dare la biberone in ospedale. No, grazie. Scusami, Efe, però voglio capire. Dunque, mi stai dicendo che comunque in questi ultimi 15 giorni per tornare al coronavirus. No, ma noi ultimi oggi. Cruciani, io la settimana, settimana scorsa c'è stato un calo, ho lavorato anche perché come lo sai questo panico è stato creato questo weekend. E questo weekend c'è stato un calo. Io ho lavorato sia sabato, ho fatto due clienti, sia ieri un cliente ma buono, quello ricco, quello generoso. Cioè oggi quanto non hai fatto? Non ho lavorato, ma domani parto probabilmente per Torino, avevo già scritto sui miei siti dappertutto perché da due mesi... Cioè domani passi col tour, domani tour. 18 dicembre, colpa del mio veterinario, mortono dei miei cani, ero in lutto totale, sono rimasta a Milano per i miei altri due cani, avevo già scritto che arrivava il marzo e avrei cominciato comunque a girare un pochettino, domani vado a Torino, sicuramente lavoro, ma comunque questo è panico, dura per 10 giorni, una settimana, prima o poi ci ammaleremo tutti, ma è inevitabile, di sicuro, ma sì, ma no, ma che cazzo sei, ferma là, le persone sono malati in Cina, ferma. La Zanzara. Pronto? Guarda, ma va tra piangole, guarda, a te grindri dici, tu vuoi clandestine? C'è un po' di rabbia, però... Ma quale rabbia? Che cazzo di rabbia mi dica? Ma sulla Santanché, si ricorda cosa ha detto? Certo. Ecco, che lo vuole ripetere? Lo vuole ripetere? Perché ha detto che meglio, piuttosto che andare con lei, farei un buco sul cuscino. Ma sulla Santanché... Piuttosto che andare con lei farei un buco sul cuscino. Ma sulla Santanché. Una vergogna! Una vergogna! Una vergogna! Eccoci. The visto una cosa che ha veramente dell'incredibile, uno zingaro con la mascherina, figa, loro sono immuni pure alla bomba atomica, cazzo. Allora ragazzi, siamo in collegamento con il trans più famoso d'Italia, Efebal, una delle prossime. Questo ragazzo, ridevo questa battuta di zingaro con la mascherina, anche io non ho preso una mascherina perché in farmacia gli ho detto che dopo 20.000 cazzi questa nella mia vita, figurati te che se mi sarebbe successo qualcosa con coronavirus. Poi quanto sono credente, cioè, tu dici io sei... credo che ognuno abbiamo un destino, quando ti arriva da morire, devi morire. Allora, scusami, non tu stai dicendo, scusami Efe, tu stai dicendo che ormai dopo tutte le persone che ti sei fatta, dopo tutti i cazzi che hai visto, dopo più di 20.000 cazzi che non ho beccato, figuriamoci, ormai sei immune da qualsiasi cosa. Dunque non hai paura di essere beccata dal coronavirus? No, che però, ne so. Ho qualche domanda a Parenzo. No, no, aspetta, prima non ho risposte. Parenzo, rispondimi. Parenzo, ci sono più di forse 100.000 cinesi in Italia con il virus che è nato in Cina. Pare possibile che sono morti oggi, è morto un'altra signora di 62 anni prima. Sono 7 italiani che sono morti in Italia. Pare possibile, a parte Parenzo, che in Italia, comprato qui via San qui a Milano c'è, non mi ricordo il nome della via dove vivono tutti i cinesi. Vabbè, dai, Paolo Sarpi, non ci sei nemmeno un cinese infettato di coronavirus. Secondo te pare possibile? Che significa? Secondo te? Cosa vuol dire? Scusami, Efe, cosa vuol dire? No, scusami, abbi pazienza. Ma cosa vuol dire? È nato in Cina. Il virus, ma quelli non sono in Cina, sono quelli stanno in Italia. Ho capito, ma sono andati in Cina tutti per loro. Ma che ne sai? Cinese 20 giorni fa. Cazzarola, ma dai Cruciani, almeno tu non mi prendi, no, ma non giro. Ho capito, ma che vuol dire questo? Che allora, cosa vuoi dire con questa cosa? Allora, non è detto che il primo Cina, a portare il virus in Italia sia stato un cinese, potrebbe essere stato un uomo d'affari italiano che ha avuto questo problema, eh? Allora ti voglio chiedere una cosa, tu non hai paura di beccartela da un cliente, per esempio? Allora io non te ne frega niente, cioè non chiedi, mi mettere in quarantena, magari scopo con qualche infermiera. No, ma non chiedi un coso, non chiedi i documenti da dove vengono, se viene un cliente eccetera in questi giorni. Ma figurati te, allora io scopo con le persone sane, perché ma anche che ne sai, quando sei sano ti viene cazzo duro. Se ti tossisci, se hai la febbre 38-39, non vai a farti scopare, ancora meglio dire, perché io 90% scopo, non mi scopa nessuno, ma vai a farti scopare da un trans, no? Se sei sano, vai a scopare. Ma non è detto, può darsi che non lo sai, può darsi che ancora non lo sai, stai in incubazione, stai lì. Ma allora, Cruciani, io sono molto credente, se è arrivato il mio momento, ecco il coronavirus. Sai che dovresti voglio. Fare? Avevo dovresti andare. Ho paura per i miei cani, per infettare i miei cani, però mi hanno chiamato. Sì! Animali domestici, se io ho il coronavirus, però bacio migliaia di volte i miei cani, li accarezzo, dormo con loro. E tu hai più paura dei cani? Ma sì, io ho un'altra. Mia mamma è in Istanbul, che lì hanno chiuso già il confine con l'Iran. Istanbul ha più di 20 milioni di abitanti. Cioè, tu la paura tua e i tuoi cani, se si ammalano i cani. Ma scusami, io vivo con i miei cani, sono persone per me. Sai che dovresti fare? Scusami, Efe, sai che dovresti fare? Dovresti andare a fare un tour in Basilicata e sfidare questo divieto della Basilicata di accogliere i lombardi, i residenti c'hanno Lombardia già tanti in problemi lì, Efe Balli in Basilicata. Basilicata, sì, farei una cosa, un dispetto, soprattutto mi sembra luxuria di quella parte. No, luxuria è pugliese. Pugliese, no, beh, amica, anche in Puglia non... stanno predisponendo una cosa simile. Ciao Efe, a presto, ciao. Allora, Vincenzo da Brescia, vai. Dimmi. Sì, ciao, mi senti? Sì, io voglio chiamare quel leone però fra poco, quell'altro, quel tizio là che è un complottista pazzesco, che dice che hanno creato il coronavirus in laboratorio. Vai, dimmi, Vince, dimmi. Allora, io volevo difendere Peluzzi a spada tratta, perché l'altro giorno Parenzo l'ha trattato malissimo, ha detto un sacco di cazzate di bugie su di lui che non doveva dirle. Sento perché poco, quando... amico, sei collegato male, sento poco. Sento poco, Vincenzo, Giacomo da Roma. Vai, Giacomo. Innanzitutto dobbiamo dire a Febal che non si attacca ai cani. Vero, non si attacca ai cani, è vero. Poi troppi vecchi, l'ultimo anno 600.000 morti, 400.000 nascite. Allora? Più coronavirus, meno pensioni. Ma che vuol dire? Cioè tu dici che il coronavirus fa fuori gli anziani e dunque risparmiamo sulle pensioni? Per forza. Ma questa è una roba da, sai, da quei gruppi social, da quei, cosa, da quei gruppi social, gente onesta, sì, queste robe qua, questa roba qua. Cioè valla a scrivere su queste robe qua. Tu dici più virus, meno anziani, dunque meno pensioni paghiamo, meglio stiamo. Cioè più... Certo, io ho 30 anni, è pieno dei vecchi, tanto morano solo 80 anni. No, 80 anni no, non è vero. No, anche tante... questo non è vero, poi è stato un caso di un ragazzo giovane di 38 o 39. No, non è morto. Non solo è morto. Morto uno c'è di 65. C'è stato uno più giovane 70. Di 80 anni, che dice? Sui no, oltre i 50. No, è non è morto. Il 62, no, 62, 60, 62, 62, esatto. 62. Ma non solo quelli di 80 anni. Beh, ho capito, ma non è vero che muoiono solo quelli di 80 anni. Infatti, infatti muoiono quelli di 62 anche. Per esempio, è morto uno di 62, però bisogna vedere di cosa è morto. Il quadro se clinico, se cosa le complicazioni. Comunque pensateci, risolve tutto. Più virus, meno anziani. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Dai, chiamiamo sto leone, dai. Il virus prodotto in laboratorio. Mamma. Sì. Pronto? Sì. Leonardo? Sì. Ti disturbo? Sono in una riunione, perché cos'era? No, era roba del coronavirus. Per Radio 24, ciao. Mi chiamo Cruciani. Ciao, ciao, Cruciani. Ciao. Senti, voglio chiederti una cosa, ma tu parli di coronavirus sì. creato dall'uomo? Sì. Ma come mai? Beh, perché comunque da quello che ho sentito, credo a poche coincidenze, quindi ho visto un po' di documenti di quello che è successo a Wuhan e del laboratorio di ricerca, da chi è finanziato, chi ci sta dietro. E quindi... Cioè, quale sarebbe? No, io, siccome la teoria è interessante, sì. cioè, voglio sì. capire, un virus creato dall'uomo per quale, a che scopo? Sono state dette un po' di cose, no? Non è che sono il primo a dirlo, è l'unico, sinceramente. No, tu l'hai detto in pubblico, di fronte a una platea, insomma. Certo, giusto. Beh, cioè c'è comunque... un complotto per mettere paura a chi? Lo scopo di quel laboratorio, sappiamo tutti che stanno facendo degli studi e stanno portando avanti degli esperimenti batteriologici, no? Per fare che cosa? Ecco, e quando loro dichiarano che questo virus... gli è scappato di mano per un motivo o per l'altro, comunque c'è di mezzo l'uomo, non c'è di mezzo il pipistrello, non c'è di mezzo. Ma però scusa, a parte che non è che qualcuno ha detto che il virus è scappato di mano, tu stai dicendo che in quel laboratorio sono arrivati dei soldati americani a un certo punto. A Wuhan, aspetta, sono arrivati 300 soldati americani. Che cosa avrebbero fatto questi 300 soldati americani? Ah, quello che hanno fatto, magari non lo so, io non ho detto nulla riguardo quello che hanno fatto. Ho parlato di coincidenze che oggi. Sì. A cui dovremmo fare con cui dovremmo fare delle riflessioni. Tutto qui. No, però tu hai parlato di esperimenti fatti in Cina da americani sostanzialmente. No, io ho detto semplicemente che il laboratorio fatto e creato in Cina non è solo dei cinesi, ci sono comunque c'è una fondazione che ha finanziato, che non è cinese, ci sono che delle fa persone capo a chi? Che fa capo a una persona che comunque in questo momento non mi ha di fare il nome. Io ti voglio anche seguire nel tuo ragionamento. Allora, diciamo che c'è lo zampino dell'uomo, cioè l'uomo crea un virus, almeno io da quello che tu hai detto sono arrivato a questa conclusione. Cioè l'uomo crea un virus. appositamente per come mettere... è successo più volte, cioè, per esempio anche l'AIDS, tu hai detto è successo più volte, se andate a vedere indietro cioè anche l'AIDS è stato creato dall'uomo, no? Pandemie, ma ci sono tante teorie, ovviamente sono da dimostrare Vabbè, comunque mettiamo teorie che sia da dimostrare, appunto. Aspetta, vediamo. Arriviamo a una conclusione. Allora, l'uomo crea questo virus, l'obiettivo qual è? Tu hai detto mettere paura alle persone e dunque far arricchire qualcuno, con l'obiettivo di far arricchire qualcuno. Certo, basta vedere i titoli delle agenzie che ci stanno dietro e ci stanno speculando, perché se vedete chi sta collaborando, e per esempio case farmaceutiche che stanno solo collaborando. Sono crollati tutti i titoli delle case farmaceutiche. Attenzione, è crollata la borsa e quello e quell'altro, ma se vedete tutte le uscite che ci sono state di vecchi problemi tipo SARS, Ebola e altro, all'inizio crolla un po' la borsa e poi quelli che collaborano al progetto salgono di valore, cioè chi sta studiando un eventuale antidoto o un medicinale. Lui sta dicendo quelle, le aziende che stanno studiando, alla fine vuoi dire una cosa molto semplice, tutto è stato costruito per creare vaccini su cui fare dei soldi, questo è il punto. Beh, ma non è solo, appunto, se, visto che sei molto intelligente, no, vado alla sintesi, vado alla sintesi. Beh, ma non è solo se parliamo di questo, quindi al di là del complottismo sappiamo tutti che non è solo il coronavirus il problema di vaccino o di altro dove viene fatta una speculazione contro l'uomo. Il fatto che ci tu stai dicendo altri il fatto capitoli, che... cioè da come mi parli, dottor Crociani, non so come è il tuo nome, perdone, Giuseppe, da come parli sembra che ti svegli e no, oggi, ma perché no? E che oggi ci sia un uomo o un gruppo di uomini che fanno qualcosa contro l'umanità. Purtroppo non è, no, però, è solo un caso e ovviamente ma dove le puoi... cioè, siccome i tuoi video sono stati visti, questo qua è stato visto credo a 700.000-800.000 persone, allora io mi sto chiedendo una cosa: quando uno dice che questo virus qua è stato creato dall'uomo, creato dall'uomo e diffuso dall'uomo per creare panico, paura e fare soldi, è una cosa di una gravità inaudita. È come se un gruppo di persone negli Stati Uniti attraverso i soldati in combutta in parte con la Cina creano un virus e lo diffondono facendo dei morti per fare dei quattrini. Tu credi veramente a questa roba? Siamo al delirio. No, delirio. No, no, purtroppo ci fanno anche le guerre per questo. Io sono contento che tu hai questa buona fede e anch'io vorrei vivere in un mondo del genere, però purtroppo è così, bisogna, una triste realtà. E comunque ma lo tu dietro addirittura hai detto che ci potrebbe essere, diciamo, non l'hai detto forse esplicitamente, addirittura Bill Gates. Allora, se andate a vedere qualche rivista, ripeto, non italiana, allora lei ha visto tanti bei cartoni animati, secondo me. Un articolo uscito il 29 gennaio del 2020 parla proprio The Population for Profit. Bill Gates ha fondato la Bill Gates vorrebbe far diminuire il numero di popolazione. Peer Bright Institute, la quale ha dato licenza di creare il coronavirus. C'è chi ce l'ha sotto gli occhi. Sì, però voglio dire, tu amico mio, io posso apprezzare, come dire, la fantasia, però il problema è solo uno. Perché fantasia? No, ma non è che se uno legge un giorno, legge un pezzo sul web, su internet va tutto bene, perché c'è qualsiasi cosa su internet. Anche le torri gemelle sono state create dagli americani, dai, su. O lei mi dice dove ho letto queste cose, quali sono le sue fonti, o rimangono semplicemente delle cazzate, per dirla molto semplicemente. No, ma voglio dire, allora, non è che su internet c'è qualsiasi anche cosa, anche simpatiche, per carità, cazzate, cioè, posso dirti Leonardo, a me diverte molto perché la fantasia mi diverte e mi diverte tutto, però oggettivamente non è che uno dice c'è scritto su internet, perché aspetta, fermati, ti dico che il business, al di là del guadagno diretto del contro l'uomo, la guerra batteriologica, cioè gli studi che fanno come quando creano le bombe atomiche, secondo te sono per metterli sugli scaffali dei supermercati? Tu mi stai dicendo che qualcuno ha creato apposta il virus? Tu ma l'hai certo, certo. Ma è sicuro, questo è sicuro. Stato ma dichiarato. Certo. È caduta la linea. Il virus è creato in laboratorio. Roba da matti. Chi c'è? Fabio da Pavia, vai. Fabio, dimmi. Fabio. Brutto. Comunque oggi la cosa migliore è stata scritta la lettera Lamborghini. Vi scopate mezza discoteca senza preservativo e poi avete paura del coronavirus. Straordinario. Beh, vabbè, dimmi. Questo. Dimmi, che non c'entra un cazzo, però nulla, comunque è divertente. Nulla. Fabio, dimmi. Posso parlare o no? Dimmi, vai, veloce, vai. Ok, hai deciso cosa fare con la zanzara? Ma sono cazzi miei, non mi rompere i coglioni con queste cose. Se ti propongo un affare? Ma qual è l'affare? Avanti, Fabio da Pavia, ti propongo un affare. Fabio da Pavia, vabbè, alle 20:49, in piena crisi coronavirus, con i campionati bloccati. Quanti anni è che ci lavori dietro? Ma non lo so, ma sono affari miei, ma che ti interessa? La vuoi far cadere tutto così? La prendiamo in gestione noi. Ma chi la prende in gestione? Chi sei? Io e il nuovo Parenzo. Ma chi? Ma tu non è un locale. Ma non è in gestione. In gestione. Tu mi lasci 2-3 mesi, trovo anche il nuovo Gottardo. Ma tu puoi provare chi ti pare, non mi interessa, fai la tua proposta, proponiti, che cazzo ne so, mando un curriculum, fai una selezione, non mi interessa. Vabbè, curriculum, Matteo da Brema, ma non lo so, curriculum generico, puoi anche scrivere sono un coglione, magari è ottimo per fare la zanzara, cioè sono un coglione, ti propone, può darsi pure che questa cosa così barocca. No, il curriculum funziona per quelli qualunque, anche con scritto su coglione. Perché tu che cazzo sei, scusa, invece un genio? Io sono qualunque più uno. No, tu sei qualunque il primo dei coglioni, evidentemente, ma questo qua può essere un merito, cioè non può, non necessariamente può essere un difetto. Elia da Rovigo. Elia, Dimmi. Allora, Giuseppe, io sono preoccupato e indignato. Da che? Soprattutto per gli allarmismi, perché io sono qui in Veneto e vivo la situazione in prima persona. Quale città? Bande di coglioni, e lo voglio dire qui, voglio rimedicare questo spazio per dire che qui c'è pieno di bande di coglioni tornate sulla terra, che sembra che stiamo su... io sono leggenda, tra poco, io sono veneto, hai che capito? Che c'entra, scusa, sì, quali sarebbero? No, mi sono rotto il cazzo, la gente si deve informare guardando le fonti, assolutamente. Ci sono 200 contagiati, ci sono 5 morti vecchi, erano già morti praticamente. Dai, Giuseppe, sono 200 contagi, ok? Adesso hanno messo... mi sono rotto il cazzo! La gente va a folle i centri commerciali, ha rotto i coglioni. Ho parlato, Giuseppe, venerdì con una ragazza che mi ha detto che sono... Mi sto sottovalutando il fenomeno, eccetera. Sembrava è normale, c'è un po' di paura. Fermi tutti, italiani! Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ma quanto prendete al mese a fare il talk show? Dimmi cosa prendi al mese, dimmelo, lo voglio sapere!